perché io l'ho conosciuto in un posto come questo, e dove si faceva il lavoro di stare qui, noi stiamo qui, e dove ho trovato veramente che è stato per me il primo, forse anche l'unico maestro a toccare, con un ragazzo maestro di libri, ma l'unico maestro da toccare di storia, forse che ho avuto da solo. Quindi era tanto per me una cosa come parlarne e presentarlo a voi. Io penso che il tema che il professore ha detto è un tema anche molto interessante per gli interessi compositi che abbiamo come gruppo, per gli interessi che possono intervenire sia competenti di tipo totalmente storico che competenti di tanti. Parlerà della presenza del concetto di Stato, soprattutto dentro l'Europa di Ren, anche male poi l'Europa di Ren è anche un riferimento a voi. La parola di un'altra cosa che ha consentito con l'istituto che questo grande ministro è stato. Solo io che devo ringraziare gli amici Chiera e Prodi, due illustri docenti e un magnifico lettore che mi ricordano vecchissimi tempi di 20 anni fa, o 21 anni fa, ma è una conoscenza ovviamente maggiorenne. Sono molto contrariato alla luce. Si può mettere lì. Come il ricambio, c'è la luce alle spalle? No, perché c'ho la luce alle spalle qui. Ci sono due fattori, uno psicologico e un altro visivo. Sono due elementi deboli che la Grazie. Mi sono molto grato di questo invito perché mi dà l'occasione di vedere questi vecchi amici giovani, il professor Rossilli, noto medievalista, e altri amici, e anche amici più recenti, e mi dà il piacere di conoscere gente nuova e di parlare con voi. Io in teoria dell'organizzazione, non faccio la pratica come i miei amici Prodi e Schiera, dell'organizzazione del lavoro scientifico nel campo delle scienze umane, un'organizzazione che credo debba assumere necessariamente gli stessi caratteri che ha l'organizzazione del lavoro scientifico nel campo fisico-matematico delle scienze applicate. Nella lentezza dei tempi e nella voluta rovina delle istituzioni, io credo che l'unico mezzo che ci sia rimasto, ma ritengo abbastanza efficace, sia questo dell'incontro, del giocare fuori casa, dell'incontro che di volta in volta si costituisce con persone che molte volte sono le stesse, ma sempre tutte le stesse, intorno a problemi concreti. Una collaborazione che di volta in volta si rinnova senza per questo diventare sessualizzata. Allora sono preoccupazioni di carattere personale, sono interessi, e rimane l'unico preoccupazione, l'unico interesse è quello del progresso della scienza e del miglioramento di noi stessi. Ora, per me è molto interessante venire a parlare qui dello stato di Firenze, parlerò soltanto di Firenze, credo, perché interessante per me e meno per voi, io vi presenterò le risultanze dalla lettura, assiduo ormai da più di un decennio, di uno storico che mi è familiare, uno storico che non era un pensatore, non era preoccupato di problemi teorici, uno storico che stesso ha definito empirico il suo metodo storico. Mi stesso ha detto che le leggi, le spiegazioni, le interpretazioni della storia si ricavano dall'interno del tessuto stesso dei fatti, si trovano, si ritracciano nella ricostruzione stessa della tela dei fatti. Quindi non aspettate di trovare né nei testi che io vi leggerò alcun tentativo di interpretazione, cioè teorica, del problema di cui noi ci occupiamo, né di ascoltare da me un tentativo in questo senso. Io sono quello che più trarrà, o forse solo che trarrà utilità da questo scambio di idee, perché vi sottoporrò dei testi, avrò soltanto questo merito, e chiederò a voi l'interpretazione, cioè che chiederò a voi aiuto nel tentativo di dare un senso a ciò che vedremo. Ora, è molto tempo che mi sono convinto che nello studio della storia recente, dal 1870 al 1915, un periodo estremamente interessante, o come nello studio di un momento nodale del primo dopoguerra, intorno al 1923, il congresso internazionale di storia di Bruxelles, o intorno al 1928, 1933, congressi internazionali di scienze storiche, il 28 a Oslo, il 33 a Varsavia. Questi momenti, direi, nodali per la storia della nostra cultura, della nostra civiltà, lo studio della storia della geografia rappresenti una chiave di estrema importanza, direi in modo particolare per il periodo 1870-1915 e l'inizio della scienza storica nel senso pieno, quello di cui a noi ancora siamo partecipi. E per, specialmente per questo periodo, dal 1870 al 1915, io credo che sia essenziale per la comprensione del dibattito filografico e delle interpretazioni delle singole autori, delle singole opere storiche, sia essenziale lo studio del tema dello Stato. Quindi credo che sia uno dei punti in cui più utilmente si possono collaborare gli storici della geografia, con i politologi, con gli storici di dottrine politiche. Perché, e lo vedremo subito dalla lettura di alcuni passi che io farò, lo scritto a cui prenderò le mosse, come la diversa maniera di concepire lo Stato, di collocare lo Stato tra le altre realtà della società e della cultura umana, è determinante per la concezione che si ha della storia e per l'opera storica concreta. Io vorrei partire nel Pirelli, dico subito, noi abbiamo due momenti che sono notevolmente distinti, anzi in certo senso anche contrapposti. Io mi occuperò soprattutto del secondo momento e delle manifestazioni che questo ha, ma bisogna partire da una prima presa di posizione iniziale. E qui risaliamo al 1897, in un volume 64 della Revue Historique, il Pirenne scrive un famosissimo articolo, il Polemique Historique en Allemagne, una polemica telegrafica in Germania, e si riferisce alla polemica che era sorta, era già divampata, ha avuto culmine forse nell'anno precedente, nel 1896, intorno all'opera di Karl Lambrecht. E Lambrecht dal 91 al 95 aveva scritto sei volumi della sua Deutsche Geschichte, arrivando fino al XVI secolo. Nel 96 si pubblica la seconda edizione, del primo volume, nella quale appare una interessantissima lunga prefazione, che è uno dei testi più importanti per la comprensione del periodo storico di Lambrecht. Il Lambrecht aveva un po' rettificato le sue posizioni di fronte a una polemica o consensi che gli venivano e che lo definivano come marxista, e egli si difende e accentua la concezione degli stati psicolo-sociali, cioè egli attribuisce le diverse forme di vita politica, di organizzazione economica e di vita economica a una base di psicologia sociale. Quindi ogni tipo di modo di produzione, tipo di organizzazione economica, dipende da un particolare stato, è la manifestazione, è la concretizzazione di un particolare stato di psicologia sociale, di sapere civile, il collettivismo, il via finale di Dalismo. Ora, l'Amplet era stato attaccato per la prima volta subito agli inizi da Dietrich Schaefer, che è uno dei massimi esponenti della scuola che si chiamava delle Jungranzianer, dei giovani ranziani, rispose Gotain difendendo il Lamprecht, e poi infine il Lamprecht cominciò con i suoi saggi di carattere zoologico, Neue und alte Richtungen, nuove e vecchie direzioni della ricerca storica e via di seguito. Quindi il problema in Germania era già a culmine del dibattito, e il Pirenne introduce il discorso della geografia di lingua francese. Egli sintetizza in modo particolare i termini del problema, soprattutto individuando il nodo nella importanza che c'è da dare alla storia politica, fra le altre storie, gli altri tipi di storia, molti aspetti della storia. E qui salta fuori il problema dello Stato. Egli, dopo aver citato i grandi storici Bossier, Voltaire, Guizot, Thierry, ma senza, è abbastanza interessante, Macaulay, Droysen e Ranke, in quest'ordine investito, dice: tu metti également au premier plan l'histoire de l'État, c'est-à-dire d'un phénomène relativement artificiel, et qui est bien loin de résumer en lui toute l'activité sociale. On comprend facilement du reste qu'il en soit ainsi. L'État, en effet, s'il n'est pas le plus puissant des liens qui réunissent les hommes, en est certainement le plus apparent, et si l'on peut dire, le plus extérieur. Par là même, qu'il n'est pas naturel et spontané, que son maintien exige des efforts constants, que sa fragilité même le fait passer par des transformations perpétuelles, il sollicite nécessairement tout d'abord le regard de l'observateur. Quindi, egli subito dalla considerazione che la storia politica è stata normalmente al centro dell'interesse degli storici, passa alla considerazione che la storia politica è al centro di questi interessi perché è lo Stato che è al centro di questi interessi. Ed egli dice che è naturale, ma dice con tono polemico naturalmente, che questo sia, perché lo Stato non è il più potente dei legami che li uniscono gli uomini, però è certamente il più apparente e il più esterno. E per lo stesso fatto che lo Stato non è naturale e non è spontaneo, l'età è un fatto artificiale, dirà sempre il Pirenne, proprio per questo egli ha bisogno di costanti sforzi per mantenerlo, egli è fragile e quindi ha continue trasformazioni e pertanto suscita l'attenzione e attira l'interesse. Quindi in questo c'è già una definizione negativa dello Stato, dell'importanza dello Stato, quindi lo Stato non è un fatto naturale, non è un fatto spontaneo, è un fatto artificiale, è un fatto esterno. E proprio per questa sua esteriorità, per questa sua fragilità, non è il legame più potente tra quelli che uniscono gli uomini, proprio per questo è un elemento assolutamente instabile, in perpetua trasformazione, e quindi proprio per questo attira l'attenzione degli storici, quali sono portati a cogliere ciò che cambia, ciò che si muove, piuttosto che ciò che è costante. De plus, les idées philosophiques régnantes pendant la première moitié de ce siècle rendent compte très naturellement de la faveur exclusive dont jouit l'histoire politique. Elles portèrent les historiens à expliquer les événements par l'action des grands hommes et à ne considérer l'histoire que comme l'œuvre des forces morales ou intellectuelles. diciamo, una prima implicazione che deriva dall'importanza data alla storia politica e in particolare dallo studio dello Stato. Questo si perifere indipende dalla corrente filosofica idealistica dominante nella prima metà del secolo XIX, la quale poneva al centro della storia l'individuo e si considerava fra le forze storiche essenzialmente le forze morali o intellettuali. Quindi voi vedete come il problema dello Stato comincia a portare delle grosse implicazioni, perché lo Stato, quando lo Stato è al primo piano, intanto in quanto lo Stato come fatto politico è opera dell'uomo, dell'individuo, dell'uomo in quanto individuo, e dell'individuo in quanto considerato come una forza intellettuale e morale che agisce coscientemente, intanto in quanto agisce coscientemente, e adesso lo vedremo. Quindi vedete che il problema si allarga a quello dell'importanza che ha l'individuo nella storia, e l'individuo come forza intellettuale e morale, come operatore cosciente di quello che egli fa. Il n'est plus possible, en présence de résultats acquis par les sciences sociales, de réduire l'histoire à n'être que l'histoire de l'État, et de ne pas y faire place, à côté des facteurs individuels et conscients, aux facteurs collectifs et inconscients. Quindi il discorso qui conseguenzialmente si allarga. Dopo lo sviluppo delle storie sociali, non è più possibile continuare a limitarsi alla storia politica come storia dello Stato, come storia dello Stato che è opera di individui che operano in maniera individuale e cosciente. Bisogna invece far posti anche a fattori collettivi e incoscienti. Ora io qui insisterei molto su questo aspetto degli elementi, delle forze incoscienti che non hanno coscienza di sé e forze collettive, perché questo aspetto poi ha avuto conseguenze celebrabili e incalcolabili, essendo dominante tuttora nella storiografia francese, la storiografia delle annali. Ora, e qui parla del Lamprecht. Dice, egli concepisce la storia di Germania come opera, io leggo in italiano perché lo faccio prima, egli concepisce la storia della Germania come l'opera collettiva della nazione tedesca, come il prodotto di un'evoluzione di stati socio-psicologici che si generano gli uni dagli altri e ai quali si riconduce la diversità infinita degli avvenimenti politici, dei fatti, sottolineo fatti economici, delle correnti religiose, dei movimenti artistici, scientifici e letterari di ciascuna epoca. Quindi è in vecchio condensato la teoria del Lamprecht. Questi stati socio-psichici che sono differenti per ogni epoca, per ciascun individuo collettivo, cioè per ciascuna nazione. E qui nazione va inteso in un senso particolare, non nel senso nazione, in senso politico, in senso risorgimentale, come noi siamo abituati a considerare, cioè per una collettività che è sufficientemente individuabile. Torneremo poi su questo termine di nazione, dico subito che nel vocabolario di Pirenne sarebbe molto interessante studiare proprio in maniera teologica l'uso delle terminologie nation, société, corps social, constitution sociale, che sono praticamente tutti quanti dei sinonimi. Il metodo di Lamprecht consiste nel considerare la storia dal punto di vista delle scienze sociali. Da quando, al luogo di mettere l'individuo al primo posto e di vedere dello Stato l'oggetto essenziale delle ricerche storiche, si impegna anzitutto a spiegare lo sviluppo nazionale di un popolo con i fattori naturali e collettivi di cui egli è il risultato. E qui cominciamo ad andare nel concreto, ed è una posizione che ha degli sviluppi notevolissimi, dico subito, che ha degli sviluppi a un certo momento divergenti, anzi opposti, dell'Lampre di Pirelli. Io mi permetterò di semplificare lo sviluppo del pensiero di Lampre per capire poi meglio quello di Pirelli, che è in polemica con il Lamprecht. Un saggio di Zukunft des Deutschland, che forse è uno degli ultimissimi scritti del Pirelli, dell'Lamprecht, in quanto è un Kriegsrede, un discorso di guerra pronunziato pochi giorni prima della sua morte, che come sapete avvenne il 10 maggio del 1915. L'oggetto essenziale della storia non è lo Stato, ma è quello di spiegare le développement national d'un peuple par les facteurs naturels et collectifs dont il est le résultat. Quindi sviluppo nazionale di un popolo. Sviluppo di un popolo in senso nazionale, cioè sviluppo di un popolo verso l'acquisizione di caratteri propri che lo definiscono e lo distinguono da altre unità del medesimo tipo. Quindi fattori naturali da una parte e collettivi dall'altra. E questa è la spiegazione, questo collettivi, c'è quella spiegazione dell'inconsciente. Prima abbiamo visto che il Pirelli ha fatto due equazioni fra individuale e cosciente e fra collettivo e incosciente. La psychologie des peuples et la sociologie montrent que le développement social est conditionné non seulement par le climat, le sol, la faune, la flore, etc., mais aussi par un certain nombre de. Quindi la psicologia dei popoli e la sociologia mostrano che lo sviluppo sociale, ecco è qui, sviluppo sociale è la medesima nozione che il développement national d'un peuple. Quindi vedete come social e national si identificano, come società e nation si identificano. Quindi lo sviluppo sociale è condizionato non soltanto da fattori naturali, quindi dal clima, dal suolo, dalla fauna, dalla flora, eccetera, ma anche da un certo numero di manière d'agir, de penser, de sentir, extérieur all'individu, e 100% a lui. Questo proprio è un punto chiaro. Quindi lo sviluppo di una nazione, definirsi di una nazione, caratterizzarsi della nazione, dipende da un certo numero di maniere di agire, di pensare e di sentire, esteriori all'individuo e tali che si impongono a lui dall'esterno. Ora, perché sono esteriori all'individuo? È perché sono della collettività presente, ma anche della collettività passata. Quindi l'individuo, come si trova immerso in un ambiente naturale, che è quello che è, così l'individuo nasce in vitro, in una provetta, ma nasce in un determinato ambiente, quindi che ha già un dato, un certo modo, certi comportamenti, diremo noi oggi, di agire, di pensare, di sentire, che si impongono all'individuo. L'azione dei primi è costante, dei fattori naturali, quella dei secondi, cioè dei fattori d'ambiente, diciamo, è variabile. Gli stati socio-psichici sono viventi. Le milieu social dans lequel les individus sont plongés n'agit pas seulement sur eux par le dehors. Quindi l'ambiente sociale, diciamo sempre, questi comportamenti collettivi che sono dei dati precedenti, contemporanei all'individuo, non agisce soltanto sugli individui che è immerso in questo ambiente dal di fuori, quanto come costrizione, senza che egli debba necessariamente aderire a questi, non è soltanto a questi. Il ne constitue pas un ensemble de conditions passives, quindi non sono dei condizionamenti esteriori, dei condizionamenti passivi che stanno lì e di cui l'individuo deve prendere atto per poter poi su di questi o contro di questi o al di fuori di questi agire. No, questo milieu social, il vit dans les individus, il se réalise dans chacun d'eux. Vive negli individui, si realizza in ciascuno di essi. L'individuo è anche il milieu sociale, è anche l'insieme dei comportamenti che sono in atto da tempo nell'ambiente nel quale lui nasce. Nell'ordine economico come nell'ordine spirituale l'individuo non è isolato se non per astrazione. Anche questa è un'affermazione che io sottolineo proprio molto fortemente. Il reçoit du groupe social auquel il appartient, sa manière d'agir e sa façon de penser. Questo è estremamente grave. Egli riceve dal gruppo sociale a cui appartiene il suo modo di agire e il suo giro di pensiero, la sua forma di pensiero. E qui per gruppo sociale a cui appartiene, l'espressione gruppo sociale normalmente vuol dire altra cosa, vuol dire quello che Piren chiama con senso molto generico, class. Il class di per sé vuol dire gruppo, contrapposto a individuo, e poi è l'aggettivo che nel Piren determina il significato di class. Sono le classi giuridiche, sono le classi sociali, le classi economiche, eccetera, eccetera. Quindi quello che noi diciamo classe, in senso marxista, è classe sociale. Classe, quello che noi diciamo ordine, è classe giuridica. Per dire. Qui la gruppo sociale invece è proprio il collettivo, in senso molto generico, soprattutto è la nazione, qui si parla proprio di nazione, il mondo in termini nazionale economy, qui nazionale questa significazione è la nazione a cui appartiene. È un gruppo molto ampio e non è soltanto un particolare ceto sociale. Quindi l'individuo riceve dal gruppo sociale a cui appartiene il suo modo di agire e la sua forma di pensare. La società è l'elemento universale e primitivo, l'individuo il fenomeno contingente e passeggero. In breve, per parlare come Lazarus, e non so, eccomi, mi rivolgo ai politologi, chi è Lazarus? Non c'è una nota, io non ho avuto tempo di controllare. Lo spirito è l'opera comune della società. L'esprit è l'œuvre commune de la société. C'est dans la nation que réside l'esprit collectif ou objectif, e qui è sottolineato in corsivo, qui se manifeste dans chacun de nous. Quindi questo spirito collettivo o oggettivo che si manifesta in ciascuno di noi. Questa anche è una cosa molto interessante, perché questo spirito collettivo, lo capisco, che è generato non dall'individuo ma dalla società e quindi dall'individuo soltanto recepito, è obiettivo in quanto è una realtà quindi come tale soggetta a operazioni di tipo sociologico, eccetera. Senza andare molto lontano, Chanoine e Etienne de la Ruelle, notevole medievalista, in una settimana spoletina di qualche anno fa, fece un brillantissimo intervento a Le Bras, il quale ha fatto una relazione sulla sociologia religiosa o Moyen Age, e dove sostenne questo, che la caratteristica della vita religiosa dell'Alto Medioevo fino al XII secolo escluso, cioè prima di Bernardo, prima di Abelardo, prima di Eloisa e altri autori simili, ha un carattere esteriore, di esteriorizzamento, un carattere oggettivo in questo senso, che si esteriorizza in certi comportamenti costanti, quindi società liturgica. Il Dell'Orello ha molto insistito sul carattere liturgico della civiltà carolingia e poi anche di quella che segue, e quindi egli in seguito a questo sosteneva che si può ben fare una sociologia religiosa dell'alto medioevo più difficilmente del periodo posteriore, da causa di questa obiettività, quindi del se donc dans l'étude de la nation qui l'importe partire, quindi bisogna dunque partire, e quello che importa partire dallo studio della nazione. On ne considérera pas les sociétés comme une simple juxtaposition d'hommes, mais comme des êtres doués d'une vie spirituelle propre. Quindi non si dovranno considerare le società come una semplice giusta posizione di uomini, come una somma di individui, ognuno dei quali sia per sé, ma come le società degli esseri dotati di una vita spirituale propria, e quindi di una propria realtà nel senso più elevato della parola. Come le storie particolari non dovranno essere più storia di stati, ma storie di nazioni, che sono le realtà, così anche la storia universale non dovrà essere più la storia generale dell'umanità, i singoli gruppi di individui, ognuno stante per sé, che forma la nazione, sommati la storia dell'umanità, ma la storia delle azioni reciproche che le nazioni esercitano le une sulle altre. Quindi voi vedete che è una posizione che potete chiamare in fondo, e anche questo è un idealismo di sinistra, è una posizione molto contraria alla cultura, alla civiltà, alla posizione politica che nasce con la rivoluzione francese, con un certo positivismo d'altra parte, ed è un tentativo cui teoricamente cercherà di porre soluzione, molto meno praticamente sul piano dell'opera telegrafica concreta, e il Volpe. Io l'ho notato sempre poi in Pirelli, che questo tentativo di conciliare l'universale e l'individuale, qui questo dramma non c'è, perché è il generale, l'universale che prevale sull'individuale, e comunque in generale l'universale è sempre considerato un po' in senso quantitativo, o come somma di individui, di tutti gli individui che formano la nazione, di tutti gli individui che formano l'umanità, oppure, secondo la posizione invece che in questo momento il Pirelli segue, come società collettiva, che è quella che è la vera realtà di cui gli individui non sono che manifestazioni contingenti e passeggeri. Il problema che si pone di trovare dalla storia stessa la sua spiegazione, di scoprire empiricamente le cause immanenti che ne dominano e determinano l'evoluzione. La psicologia dei popoli e la sociologia possono aiutarci a risolvere questo problema, e se sono per la storia ciò che le matematiche sono per la fisica. Noi troviamo qui di fronte, è molto interessante, io questo l'avevo letto, questo saggio, molti anni fa, uno dei primi del Pirenne, il primo interessante del Pirenne, e poi non l'ho più riletto. Adesso rileggendolo ci ho trovato due passi che sono estremamente interessanti, perché qui sono due passi che sono riportati poi in seguito al Pirenne durante la guerra, nelle polemiche del dopoguerra contro la storiografia tedesca, contro questo tipo di storiografia che adesso lui lancia nel mondo di lingua francese, con un significato del tutto diverso. Il PN poi dirà sempre, proprio nei discorsi che più si allontanano lo spirito da questi, dirà sempre che la storia universale non è la storia generale dell'umanità, ma la storia delle azioni reciproche che le nazioni esercitano le une sulle altre. Ma lo dirà in un significato diverso. Lo dirà molto diverso. Lo dirà per negare il razzismo. lo dirà per negare che le nazioni, come esseri collettivi, come realtà collettive, siano un dato, che precede gli individui, siano un dato che ha un valore di per sé, che è da sempre, per negare questo perché? Perché le nazioni sono quel che sono, non soltanto per se stesse, ma per quello che ricevono dalle altre. E quindi la storia universale non è la combinazione risultante di esseri che sono già perfetti, e quindi non è il risultante di cose che però nel combinarsi rimangono ciascuna a quelle che è. Ma la storia universale è il risultato di influssi reciproci fra nazioni che in questo rapporto fra di loro si fanno, cambiano, e ogni nazione tanto più si sviluppa quanto più è capace di ricevere dalle altre. Quindi è un contesto che mi sembra abbastanza diverso, che insiste sul fatto che ogni nazione non è a sua volta un dato che si impongono gli individui, ma è qualcosa che viene formato anche da altri elementi simili. È una prima affermazione. La seconda affermazione che ritorna nel Sirene è questo: il problema che si pone di trovare nella storia stessa la sua spiegazione, di scoprire empiricamente le cause immanenti che determinano l'evoluzione. Ora, il Sirene dirà tutto questo in polemica contro la sociologia, poi dopo, dicendo che non ci sono delle leggi, bisogna scoprirle, non ci sono degli aspetti generali che determinano quei fatti individuali, ma ci sono tutti i fatti individuali che non hanno nessuna spiegazione, se non è quella che è data, diciamo così, da loro esistere. E quindi non c'è nessuna legge da scoprire se non quello di constatare lo stare insieme. Dalla lettura che abbiamo fatto con il mio seminario di storia della filosofia con i miei alunni, è risultato proprio questo elemento più chiaro di quanto non lo fosse a me stesso. Io sono restio ad ammettere di imparare dai miei allievi, questa volta ho imparato questo, che è un punto fondamentale, dice, che nel pieno ciò che domina, ciò che è proprio dello storico, è la contingenza. La contingenza è la coincidenza. Quindi lui insiste sugli aspetti economici come gli aspetti primi perché primordiali, primitivi, bisogna essere primitivi, magari certe volte prima dell'ordine di tempo, all'attenzione dello storico. Qui ha detto che la storia dello Stato è quella che salta più agli occhi, è quella che è più facile, perché è quella che si muove di più, e lo storico avverte meglio a prima vista il movimento di quanto non possa cogliere invece ciò che rimane, ciò che è stabile, ciò che è fondamentale. E così dice la storia economica, io la metto per prima, perché quella è più concreta, che si coglie con maggiore facilità, che si prende con le mode, non perché sia più importante. Ebbene, un mio allievo, esaminando un po' la struttura della storia d'Europa, ha trovato questo, che ci sono ciò che interessa, a parte l'accostamento determinato al capo, uno degli elementi che poi il Fidel prenderà fortemente in considerazione, fra popoli che si incontrono, invasioni, l'invasione è sempre molto importante per Fidel, parlo per le Germanie. Parte questo, ci sono dei fenomeni indipendenti gli uni dagli altri che coincidono. Questa coincidenza, questa cronologica, questo contatto anche materiali tra le persone che sono protagoniste di questi fatti e di altri fatti indipendenti, di diversa natura, e quindi questa coincidenza c'è la spiegazione di tantissime cose. E un esempio che vi fa è questo: c'è lo sviluppo economico, fino al decimo, la ripresa, l'economia attraverso il gerarchia della terra, questi mercanti, i primitivi capitalisti, tutto quello che voi sapete benissimo. E poi a un certo momento, poco dopo, ma quando questo movimento sta già maturando, sta già espandendosi, c'è il fenomeno delle crociate, che è secondo cui è un fatto di origine esclusivamente, squisitamente religiosa. E gli nega l'importanza, l'interesse economico anche delle città italiane, che pure partecipano alla prima crociata, perché erano ancora agli inizi, non potevano sentire con un proprio interesse economico l'espansione in Oriente, erano cose da venire, sarebbero venute dopo, ma... Quindi è un fatto puramente religioso, l'esplosione della riforma ecclesiastica, la spiritualità, che era partita più niente, ebbene, queste crociate, quindi che non sono determinate dal fatto economico, come il fatto economico non è per nulla determinato da nessun motivo di carattere religioso, ebbene, questo fatto religioso che sono le crociate porta con sé delle già un incremento economico, scambi, eccetera, ma soprattutto porta con sé delle condizioni favorevolissime a un sviluppo economico che indicano e come constatiamo che c'è. E quindi lo storico è quello che si mette lì di fronte agli avvenimenti e vede quello che c'è contemporaneamente, quello che si giustappone, quello che coincide. E in questa coincidenza stessa egli empiricamente trova la spiegazione di tante cose. Ecco, qui della crociata, ma anche la scoperta dell'America, c'è la coincidenza del Rinascimento, del tutto il capitalismo e della riforma protestante, dice, il Rinascimento parte per motivi di carattere culturale, intellettuale, spirituale, eccetera, ebbene a un certo punto parte c'è lo sviluppo del capitalismo, in un'altra parte il capitalismo è favorito sviluppo precedente del 200, del 300, del 400, che è un grande sviluppo del capitalismo favorito dagli stati, le monarchie, vedremo anche questo. E poi c'è la scoperta di Asia, la scoperta dell'America in modo particolare. Ebbene, per il Piren tutto questo non è dovuto alle esigenze della vita economica che richiedono questi nuovi sbocchi, è dovuto invece a esigenze di carattere intellettuale e morale che partono dal Rinascimento da una parte e dalla Riforma, dai questi movimenti che porteranno poi in seguito alla Riforma dall'altra. Quindi questa scoperta, le scoperte geografiche sono un fenomeno di carattere culturale, morale e basta, ebbene portano possibilità del grande sviluppo economico e coincidono con questo sviluppo economico che è indipendente, come è indipendente da quello economico e la scoperta geografica, e questa coincidenza porta le conseguenze che noi sappiamo. Quindi questo per il Pirelli in un secondo tempo significherà scoprire empiricamente le cause immanenti dell'evoluzione della storia nella storia stessa, nei fatti stessi. E qui invece le cose vogliono dire quello che noi abbiamo visto che vogliono dire. Ora, quindi questa è la posizione del Pirenne, che è anche quella del Lamprecht. Il Pirenne prende, lui in questo momento sta diffondendo, ha intenzione di diffondere in Germania il pensiero del Lamprecht. Ora, io credo che adesso potrebbe forse interessarvi anzitutto vedere come questi punti si sviluppano nel Lamprecht. Vi farò di quello che conosco bene, terminato in maniera particolarizzata e critica, e a questa parte mi pare proprio il massimo punto di arrivo, lo sviluppo che questa concezione ha nell'Amprecht, sviluppo che il Piren rifiuterà con la massima energia. E guardate che noi siamo per un verso proprio a uno dei punti nodali che ci interessano poi in questo momento non più come storici, non più come storia della filosofia, ma semplicemente come uomini e per i problemi di oggi, per le scelte di oggi. Sapete questa importanza, questo bivio in fondo a cui l'uomo si trova, questo stato che può essere tutto o può essere niente, perché io credo che la discriminante sia proprio un sottile filo di rasoio. Questo si spiega, si va a capire poi storicamente, ma direi anche umanamente, le vicende di tanti uomini, uomini non soltanto uomini politici, ma uomini di studio che sono diventati politici, filosofi o storici che sono diventati politici, che a un certo momento ci danno l'impressione di aver preso delle vie strane, di aver avuto delle conversioni o delle involuzioni, mentre invece la situazione, questo tra 8 e 900, era veramente in questi termini, quindi proprio la discriminante tra quello che noi possiamo usare oggi, la massima autoritarismo e massima democrazia, proprio era il fine della storia. Adesso lo vediamo come dalle medesime basi. Ora questa lettura di questo passo che ho fatto mi ha illuminato, dovrò ritornare a scrivere queste pagine, forse in alcune delle frasi che leggerò si troverà qualche ecco della mia incomprensione che ora invece sarebbe superata dalle osservazioni che ho fatte leggendo il passo. Dunque, il 9 gennaio 1915 Karl Lamprecht pronunciò nell'Aula Magna dell'Università di Lipsia un discorso sull'avvenire del germanesimo Deutsche Zukunft. Bene, ora sentite che cosa dice il Lamprecht, è estremamente conseguenziale a quello che io vi ho letto, quindi questo che io vi leggerò adesso dà l'idea della pregnanza di valori, di significati che hanno quelle posizioni. Il Pirenne non si discosta molto da queste posizioni nella sua Histoire del Belgique, almeno nei primi volumi della sua Histoire del Belgique. Per fortuna lui sotto quell'idea ha scritto i primi volumi, non gli ultimi, cioè ha scritto dei volumi dove quelle idee diventavano meno pericolose e più utili. Ha avuto la grande fortuna di poter fondare la nazione belga, la giustificazione della nazione belga con idee che sono fondanti, che sono buone a fondare il concetto di una nazione, una cosa che è al di là degli individui. Ha avuto la fortuna che quando è arrivato al momento in cui doveva fare i conti col valore dell'individuo e i rapporti con la nazione, con lo Stato, ha cambiato, ha dato l'interpretazione dall'altra parte, insomma, è passato dall'altra parte del fluvio, quindi ha potuto dare un'interpretazione liberistica, è stato un uomo in questo credo eccezionalmente fortunato. Sul Pirenne io l'ho incontrato pochissimo tempo fa, Vanutti, il collega Vanutti di Lovanio, di Lovanio Fiamminga, è un personaggio interessante, notevole, storico dell'economia del basso medioevo, è colui che adesso diventerà il direttore dell'istituto belga di Roma al posto di Carlo Ferdinand. E da buon Fiammingo non posso scrivere Pirenne, veramente. Diceva, oh, meno male che studia Pirenne, che non sia bello, che hanno fatto tutta una geografia. E effettivamente la biblioteca integra che sta scritto Pirenne, tutta la biblioteca agiografica fino al nostro amico Bryce Lyon, americano, che ha vissuto 20 anni in Belgio per studiare Pirenne, con i figli americani sono diventati praticamente di nazione belga anche loro. E l'unico scritto polemico è stato quello di John Dont, un fiammingo di Dont, che ha suscitato uno scritto che quindi abbiamo pubblicato negli annali della FISA e che io ho constatato che ha suscitato uno scandalo nazionale in Belgio. A me è molto interessante che uno scritto su uno storico susciti uno scandalo nazionale, popolare, cosa che in Italia non succederebbe. E perché il Pirenne, come diceva Michel Chabot, è l'uomo, lo storico che ha creato una nazione. Se Pirenne l'avesse sentito, avrebbe bestemmiato per la mattina alla sera, anche se non è ancora bevuto la sua tonnellata di birra quotidiana, perché il Pirenne negava, e se lo vedremo, negava che la nazione possa essere un'opera cosciente, potesse creare a nessuno, per la nazione è un'opera appunto collettiva e incosciente. Bene, ora vediamo il Lamprecht. L'autore individuò anzitutto la tendenza verso l'unità e quella verso la libertà come le due più potenti tendenze dell'epoca attuale. Tendenza verso l'unità e tendenza verso la libertà. E si chiese quale sviluppo esse avrebbero avuto nel futuro. L'impulso all'unità si identificava con un forte sviluppo della coscienza nazionale, che era allora anche coscienza dell'impero Reich in Germania, rappresentando questo l'unità materializzata della nazione. Coscienza dell'impero, tradotto Reich, coscienza dell'impero, Reichsbewusstsein, forse dovrei dire coscienza dello Stato, che dicono i germanisti, in questo contesto. Voi vedete che già questo fatto che l'imperi rappresenta l'unità materializzata della nazione, purtroppo un fatto tedesco, è già la soluzione del problema. Qui, in questo testo, a me sembra che in Lamprecht ci sia la deificazione dello Stato. E credo che questo parta da quelle posizioni che erano dell'Lamprecht di prima maniera, incontrava lo Stato nel mondo artificiale, tutta la sua polemica contro la storia politica, che era polemica contro la storia dello Stato, eccetera, eccetera. Ora, questo non sembra un'aberrazione, ma secondo me è la conseguenza logica, vera. Chi è meno logico, meno conseguenziario, è il Pirenne nell'arrivare a una concezione anch'essa notevole dello Stato, ma più liberale. Dunque, l'impulso all'unità si identificava con un forte sviluppo della coscienza nazionale, che era allora anche coscienza dell'impero, rappresentando questo l'unità materializzata della nazione. La coscienza di libertà, che non doveva essere scambiata con la democrazia o con il liberalismo nel senso di libero gioco di partiti, era un preciso impulso verso nuove formazioni politiche tali da promuovere la libertà del singolo. In che maniera? Ma bisogna avvertire che in quest'ultima definizione data dall'Lamprecht non si intendeva libertà individuale in senso assoluto, bensì libertà condizionata da elementi che sono esterni all'individuo, lo comprendono e lo superano. Infatti, lo storico di Nizia spiegava subito che nel processo di sviluppo di ciascuna epoca la condizione più matura si raggiunge nel momento in cui il singolo è così pienamente preso dai suoi compiti all'interno della nazione a cui appartiene, della nazione distinta anzitutto materialmente, cioè dello Stato, che egli vuol bensì avere la libertà di svilupparsi, ma al tempo stesso sente il bisogno di sottoporsi a quella disciplina comune senza la quale la sua libertà non può avere consistenza. L'inserimento del singolo nell'ordinamento della nazione è il primo gradino di questa autolimitazione, che diremmo è quella che fonda la libertà del singolo. Il sentimento dell'unità e quello della libertà costituiscono dunque un fatto unico. Tale coppia di concetti, come chiama il Lamprecht, cioè la coscienza dell'unità e la coscienza della libertà, sono espressioni della stessa essenza, che è l'essenza della persona umana in tutta la sua altezza, ed hanno un'unica origine nell'anima vivente della collettività nazionale, che è la profonda radice della civiltà. Sono insomma realtà spirituale. Ebbene, queste espressioni della vita dell'anima, che si identifica fortemente nel corso della storia, diventano sempre più numerose e hanno pertanto sempre maggior bisogno di un'organizzazione. Organizzazione che Lamprecht affermava poter essere realizzata solo con gli strumenti dell'arte e della cultura. Evidentemente perché si tratta appunto di un'unità spirituale, ma che non per questo risulta meno coercitivo, dato il carattere necessitante della sintesi tra unità e libertà. Passando alle semplificazioni, l'oratore osservava che si erano avute nel corso della storia diverse forme di coscienza unitaria nella vita dell'anima germanica secondo i vari gradi dello sviluppo della sua civiltà. Ma egli riteneva che una vera e propria coscienza nazionale cominciò a manifestarsi in alte personalità culturali, specialmente di poeti, solo dopo l'anno 1750, quando per la prima volta si prospettò l'ideale di sacrificio per la nazione, e che poi la coscienza nazionale si diffuse progressivamente fino a raggiungere le masse nella seconda metà del secolo XIX. La sintesi dei sentimenti di unità e di libertà, che era per Lamprecht il nucleo della coscienza nazionale, a suo avviso si realizzò dapprima nell'ambito dei vari stati, specialmente i più piccoli, nei quali più facilmente si costituì l'unione tra il principe e il popolo. Ebbe poi sviluppo nella rivoluzione del 848 e trovò forma giuridica nella costituzione del Parlamento. Ma quando la guida del movimento nazionale venne assunta dalla Prussia, quella sintesi di unità e di libertà fu cercata non più con la poesia e con il diritto, ma con mezzi militari e diplomatici in conformità con lo spirito prussiano. Dapprima si dovettero superare i contrasti all'interno dello stesso Regno di Prussia, tra le province nordorientali originarie e quelle renane. Poi si procedette alla fusione tra la Prussia e le rimanenti regioni dell'impero. Il risultato fu che la Prussia, proprio mentre si imponeva ai piccoli stati tedeschi con la potenza militare, perdeva della propria essenza molto più che non perdessero le altre parti della Germania in tutti i campi, in cui queste erano superiori, specialmente in campo superiore. Così, dopo la fondazione dell'impero, l'870, cito, unità e libertà si compenetrarono sempre più, la coscienza dello Stato e quella dell'impero cominciarono a incontrarsi, e perciò si poteva dire che la nazione si convertì nello Stato e lo Stato nella nazione. Un approdo ideologico, io scrivevo allora, parecchio lontano dalle posizioni iniziali all'Albrecht, che aveva ritenuto lo Stato una creazione meramente artificiale, aggiungerei adesso un approdo logico, uno dei due possibili approdi abbastanza logico. Questo processo di sviluppo della sintesi di unità e di libertà non era destinato a interrompersi nel futuro, sia che la guerra fosse vinta o perduta, ma in modo speciale tutte le contrapposizioni interne sarebbero sparite se la guerra si fosse conclusa tanto felicemente che la Germania potesse entrare in una più ampia storia e allargasse le sue braccia fino a diventare una vera potenza mondiale. Vabbè, lasciamo stare questo fatto che è dettato dalla preoccupazione politica del momento e che non è strettamente interessante al nostro problema. Dall'esistenza di queste prospettive pangermanistiche derivavano per la storia di Lipsia una incondizionata volontà di sacrificio, e insieme, naturalmente, come gli diceva, la coscienza che erano necessarie subordinazione e autorità. Insomma, cito, un particolarmente forte sentimento religioso che non proveniva dalla Chiesa, ma immediatamente dal popolo. Qui come religione si deve intendere questo, la disposizione a limitare la propria individualità in rapporto con la realtà collettiva, nazionale, e il vedere in questa autolimitazione, cioè la funzione, la massima possibile espansione della personalità individuale e quindi in questo senso la libertà. Libertà cioè che si raggiunge soltanto nell'autodelimitazione in funzione del popolo, della nazione, dell'ente collettivo. Come programma concreto per realizzare tali prospettive future, il Lamprecht consigliava l'accantonamento delle questioni economiche e sociali, sebbene prevedesse oscuramente in un più lontano avvenire, come espressione dell'ideologia dominante dell'epoca successiva, la rivoluzione degli stati sociali. E indicava l'esigenza di sviluppare l'educazione e l'insegnamento per promuovere appunto la fusione di unità e libertà. Poiché, cito, uno Stato di vera grandezza può certo crescere con la sola sua propria forza interiore, ma a condizione che gli uomini siano preventivamente educati a questo. La sintesi fra unità e libertà, che in vero significava praticamente subordinazione dell'individuo alla nazione, era pur sempre una realtà spirituale, e pertanto se poteva essere imposta con la forza delle armi e della diplomazia, in un primo stadio, che Lamprecht non escludeva, doveva poi essere mantenuta e sviluppata con mezzi spirituali, educando l'individuo a conoscere e a secondare il processo della vita dell'anima nazionale, che si sviluppa secondo una propria intima necessità. Mezzi spirituali non meno coercitivi di quelli materiali, sebbene fossero, cito, permeati d'arte e di cultura. Era infatti un'educazione predeterminata dalle leggi dello sviluppo dell'anima nazionale e finalizzata all'osservanza di quelle. Un'educazione che certo non promuoveva la imprevedibile libertà di comportamento e di convinzioni personali. Ora, posso leggere poi una serie di frasi, potrei leggere una serie di periodi dove si passa da affermazioni di questo tipo ad affermazioni pesantissime che se questa educazione non si raggiungeva bisognava poi che le forze militari provvedessero, quindi in materia brutale. Ora, quello che è interessante è questo, questa contrapposizione tra spirito di libertà e spirito di unità e la necessità invece di raggiungere una sintesi fra l'uno e l'altro e dove l'individuo raggiunge la propria libertà proprio nella autodelimitazione, autodeterminazione in funzione di questo collettivo nel quale soltanto egli raggiunge la propria libertà. Ora, è un aspetto secondario, molto interessante, ma secondario, in fondo nell'ambiente tedesco il Lambrecht a quell'epoca non era quello che noi oggi diremmo un falco, ma era piuttosto una colomba, molto relativamente colomba, e diceva che trattandosi di realtà spirituale è la libertà dell'individuo, realtà spirituale è la realtà collettiva, e quindi questa subordinazione, questa delimitazione dell'individuo nei riguardi della realtà collettiva deve essere possibilmente volontaria, questa volontà deve costruire con gli strumenti della persuasione, dell'educazione, quindi con strumenti d'arte e d'arte di lettere, e questa è la caratteristica che deve assumere la Germania, questo è il Deutschtum. Il Preußtum invece è la tendenza a raggiungere questo fine con la forza militare, la forza armata, perché la Prussia ha questa tradizione, in fondo che è un po' esterna all'anima più autentica della Germania. Quindi questo è un aspetto particolare. Poi lui stesso dice, poi alla fine se non si riunisce con le buone, si riuscirà con le cattive. Ma c'è una polemica con dell'Ant, in dubbia, polemica di uomo di cultura, sostanzialmente di uomo da bene, contro le prevaricazioni fatte dai tedeschi durante la guerra, come sono altri discorsi che il nostro problema è, non c'è. Dunque, questa è la posizione dell'Albrecht. Voi vedete che in questo elemento lo Stato c'entra, ora non è il caso di parlare di Stato etico, ma insomma la funzione educatrice dello Stato indubbiamente c'è, e quindi c'è riconoscimento anche che a un certo momento, se l'azione educatrice fallisce, lo Stato debba a questo fine assumere la posizione forza, fare appello alle sue forze direttamente. E gli ultimi volumi, anzi del Deutsche Geschichte, sono i due volumi, tre tomi della storia contemporanea, scritti 12-13 mi pare, sono molto forti a questo riguardo, quindi è un altro lancio dove lo Stato assume un'importanza formidabile, quindi da essere negato come fatto artificiale, lo Stato viene invece fortemente affermato. Ora, il percorso inverso a Piren fa un percorso inverso, e Piren fa un percorso inverso rispetto all'Lambrecht, perché lui acquista coscienza di questo molto, molto tardi, ecco. Partendo da quelle medesime posizioni che erano, ripeto, di entrambi. Dunque, ecco, io vorrei leggervi dei passi invece del Piren, dove, e questo è uno dei famosi discorsi su cui io ho insistito tanto in questo volume, discorsi del dopoguerra, dove egli polemizza contro gli studiosi tedeschi, dove abbiamo una posizione essenzialmente antistatalistica, abbiamo una combinazione della posizione antistatalistica, e sembrerebbe il Piren rimasto fedele a quel patto che abbiamo detto. Dunque, adesso una delle cose, a un certo punto ci rende, questo è il secondo discorso rettoriale, mi presento di un rettore, quindi di colleghi, Sirene come collega, attenti, altri rettori, naturalmente, ma sempre rettori, sempre rettori, sempre rettori, insomma, ecco. Allora c'era anche loro l'uso di avere rettori storici, insomma, quindi no, altri tempi in questo, non nelle persone, negli usi, perché il Pirenne poteva celebrare un discorso rettoriale, rettoriale di carattere scientifico, insomma, scientifico-politico. Ha fatto, a me ha fatto molta tenerezza e tristezza vedere domenica scorsa c'è stata la cerimonia annuale della consegna delle medaglie d'oro e d'argento per le nozze d'oro e di argento con la laurea Pisa dell'Associazione studenti di Pisa, e allora convocano tutti quelli che hanno 50 anni e 25 anni di laurea, erano, come voglio dire, questi vecchietti, eccetera, queste vecchiette, e allora il rettore ha fatto un discorso a questi vecchietti e finalmente è sfogato. Ha fatto il discorso che normalmente si fa in inaugurazione dell'anno accademico che non si tiene più. E quindi si è sfogato con questi vecchi, quali non lo hanno contestato, erano tutti commossi, poi c'erano tanti che erano copiette, che erano conosciuti da studenti, e quindi, quindi è un'idea che fa, no, io si può fare ancora una cosa, e poi bisognerebbe farlo in carcere, e quindi sarebbe un'altra cosa. Vabbè. Comunque, un'idea di andare a San Vittore a fare, a celebrare le nozze d'argento della laurea in sociologia. Vabbè, no, San Vittore no, la data a 25 anni ci può essere nell'isola. Dunque, no, io non accetto il consiglio, che è un consiglio alla prudenza. Ora, il Pirenne in questo discorso mi sono meritato di aver perso, diceva, parlando di Lamprecht, dice: la concezione pangermanistica si robustiva man mano che cresceva la potenza tedesca. E poi dice, come esempio tipico di questa, prendete l'ultima storia di Germania scritta avanti la guerra, Deutsche Geschichte, di Karl Lamprecht, rispettualmente, liberatela dalla teoria fumosa nelle quali si avviluppa, e dite se sia mai esistita un'opera in cui lo sciovinismo si riveli come altrettanta cieca volontà. Vabbè, la una delle varie colpe è un discorso in cui il titolo è questo: ciò che noi dobbiamo disimparare dalla cultura tedesca. E una delle, la seconda cosa che bisogna disimparare è questa. Dunque, credo che sia l'ambiente meno adatto. Ma insomma è così. La seconda cosa, dice Pirenne, studiando la simpatia immensa e incondizionata del Pirenne, umanamente mi è sempre più caduto durante lo studio, devo dirlo veramente. Un'altra colpa era la tendenza a ricondurre, essendo in situazione, tutto allo Stato, confondere lo Stato con l'assolutismo. A suo avviso tali pregiudizi si erano formati perché l'unità e la grandezza della Germania furono opera della Prussia, che non era una nazione ma uno Stato. Anzi, il tipo più compiuto, di Stato militare e monocratico. Ora vedremo poi nella storia d'Europa questo concetto. Dopo il 1970, stendosi il contrario fra le storie del qualche aderente a quella concezione liberale che era stata di uomini come Georg Gottfried Gervinus e Ottokar Lorenz. La prevenzione contro democrazie diede l'impronta alle interpretazioni stereografiche, come ad esempio i giudizi del Droysen sulla Repubblica di Atene e del Mommsen su quella romana. Così certo, involontariamente veniva messo da parte l'avanzata obiettività. Droysen favorevole a Sparta più che ad Atene, il Mommsen favorevole all'Impero più che alla Repubblica Romana. Impressionate la Machtpolitik del governo di Berlino, gli storici del terreno confondevano la potenza dei sovrani tedeschi con la civiltà della Germania, quando vedevano in questa il centro politico e virtuale dell'Occidente nei secoli X e XI, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso non starò... Ecco, ciò che impressionava gli storici d'Oltre Reno, disse il Piren, era infatti lo Stato, e in tal maniera essi si ponevano dal punto di vista della politica piuttosto che da quello della storia. Quindi dar l'importanza allo Stato non è più soltanto privilegiare, come si dice con una parolaccia che non esiste nel vocabolario, non è soltanto di privilegiare la storia politica, ma si trattava anche addirittura di privilegiare la politica sulla storia, per dire. Perché dare importanza allo Stato significava poi esaltare un certo Stato di un certo tipo riguardo allo Stato di un altro tipo, lo Stato di una certa nazione rispetto allo Stato di un'altra nazione. E poi soprattutto un altro fatto, si trattava di esaltare la forza come elemento di storia, di creatività storica, eccetera. Poiché per lo storico lo Stato è ben lungi dall'essere elemento essenziale della civiltà, ma è di questa soltanto un'espressione. Ora, questo è interessante, c'è già un piccolo scarto, mi pare, in questa frase, perché egli dice che lo Stato non è soltanto, è soltanto un elemento della civiltà, dice della storia, come ho detto lì. E quindi in primo piano passa già un giudizio di valore, dove la storia deve essere storia della civiltà. E quindi, mentre lì invece cioè, lo Stato non è tutta la storia, è stata una parte della storia, e della civiltà. Quindi si introduce un giudizio di valore, cioè, perché per lo storico lo Stato è ben lungi dall'essere elemento essenziale della civiltà, ma è di questa soltanto un'espressione. Il paese più progredito è quello che ha non la forma di Stato più robusta, ma la vita sociale più attiva, varia e espansiva. Interessante qui l'espressione di vita sociale, qui per via sociale non si intende ciò che noi intendiamo per in maniera specifica il sociale, la socialità. Vita sociale si intende tutte le attività della vita della gente, no? Tutta la gente, sue strutture, nelle sue organizzazioni, in tutte le sue manifestazioni, eccetera. Quindi sociale va inteso proprio nel senso nazionale, non nel senso nazionalista, nel senso proprio di corpo sociale. Invece di apprezzare una nazione secondo la violenza che ha operata sui vicini con il suo esercito e con la sua diplomazia, ecco, quindi e qui i termini sono molto misurati, che è la nazione. La nazione che opera secondo la violenza sui vicini con l'esercito e con la diplomazia è la nazione in quanto Stato. Quindi la nazione è il soggetto, è la comunità nazionale, è questa collettività che si esprime nello Stato, ma si esprime nello Stato e in quanto si esprime nello Stato è tanto più efficiente quanto più esercita violenza, forza sui vicini oppure con l'esercito oppure con le arti della diplomazia, della politica. Quindi, invece di apprezzare un'azione secondo questo, bisogna giudicarla dall'influenza che ha esercitata intorno a sé con la sua posizione artistica, i suoi costumi, il suo pensiero. E qui sembra di leggere pagine di croce quando a un certo punto nella filosofia della pratica per distinguere l'azione morale del combattente per la patria o per altri ideali e il bandito che pure sul piano economico sono entrambe riuscite e dice come si fa a distinguere un'azione economica e un'azione morale, perché l'azione morale persegue determinati fini e fa un elenco di cose, crea nuove istituzioni, crea nuova letteratura, crea nuove idee, nuovi pensieri, nuovi sentimenti, eccetera. Invece il bandito che altrettanto efficientemente si comporta sul suo campo di battaglia non crea questi valori che Croce indica, enumera un elenco, c'è un di questo tipo qui. Quindi, invece di apprezzare una nazione secondo la violenza che ha operato sui vicini con il suo esercito e con la sua diplomazia, bisognerà giudicare dall'influenza che ha esercitato intorno a sé con la sua produzione artistica, i suoi costumi, il suo pensiero. Giudicarla, cioè, tenendo presente non il suo valore politico, ma quello umano, o per meglio dire, non considerando i suoi risultati momentanei della sua forza, ma quelli durevoli della sua cultura. Vedete che è ancora più o meno su queste posizioni che noi abbiamo riscontrato nella parte precedente. Poi vediamo in concreto nell'applicazione della storia d'Europa il peso che il Croce dà allo Stato, forse le cose sono un po' cambiate. Io ho sviluppato questa ricerca su suggerimento dell'amico Giuseppe Giarrizzo, perché quando di fronte a queste posizioni mi chiede ma il Irene attribuisce un'importanza al momento politico in quanto tale, a questa azione che non ha una sua caratterizzazione particolare, ma è un'azione essenzialmente di mediazione, che ha il suo valore, in quanto tale, di mediazione tra forze, non in quanto sia essa stessa una forza, e il risultato direi di sì. Il Piren dà molta importanza allo Stato, e anche in lui la soluzione è opposta, ma lo sviluppo è parallelo, ecco, non è diverso, non è contrasto, è opposta ma è parallela a quello di Lamprecht. Il risultato, per dirgli poche parole, poi riprenderò, o forse meglio riprendo già oggi pomeriggio il discorso su Pirelli, in modo che lo condividiamo insieme, e questo, lo Stato ha una grande importanza per Pirelli, il Pirelli ha una grande venerazione per lo Stato. E il Pirelli qui si mostra uomo del suo tempo. Io ho poche esperienze di storici dell'età contemporanea, tuttavia mi sembra che, quindi non oso dire, Pirelli sia il più vistoso esempio, più significativo esempio, certo è un esempio molto significativo di storico che rappresenta il capitalismo, veramente nella maniera eccezionale. Io rimpiango di non aver copiato poche paginette di una prefazione che Pirelli, stavolta in queste cose di nome si rivela l'essenziale, che Pirelli ha scritto una mostra, non ricordo più quale stampatore, così si celebrava il centenario a Gand, il stampatore dei primi dell'umanesimo del Rinascimento, dopo la guerra, e ci sono poche pagine dove celebra questa figura di stampatore come imprenditore, lo spirito, quindi c'è, vede in quello, era poi un protestante, lo spirito della riforma protestante, lo spirito dell'umanista e lo spirito del capitalista, e c'è un elogio di questa fusione, di questi tre elementi, che raggiunge veramente il tono epico, perché Pirelli come tale lo sentiva. Ebbene, lo Stato per Pirelli è questo, è un potere centrale. Proprio sintetizzo schematicamente in modo che do il tema per la prossima conversazione, ed è questo. È un potere centrale, essenzialmente, il quale si può costruire soltanto quando c'è un'economia capitalistica in giro, un'economia monetaria, fortemente sviluppata. Perché la moneta, il denaro liquido, ha la possibilità di pagare un esercito, che non dipende da nessuno, di pagare una burocrazia stabile, laica, senza ricorrere a aziende di fuori, cioè ai preti, senza ricorrere al personale ecclesiastico. Un altro elemento necessario è l'esistenza di una struttura cittadina, perché le città sono i gangli dell'organizzazione amministrativa stabile, finanziata con funzionari amovibili, dipendenti dal re, direttamente o indirettamente. A loro volta le città sono la conseguenza di uno sviluppo, anche esse conseguenze di uno sviluppo dell'economia monetaria, perché senza l'economia monetaria non ci sono i mercanti, senza i mercanti non ci sono le città. Le città sono importanti a loro volta per la formazione dello Stato, perché concentrando la vita economica, la vita amministrativa nelle città, costruiscono appunto le residenze, i centri locali dove stabilisce il potere, impediscono che si sviluppi un tipo di organizzazione antistatale, di disgregatore dello Stato, che quell'organizzazione politica fondata sul possesso fondiario da parte di singole autorità locali, di singoli principi proprietari locali, di tipo silenzi di chiunque di dire feudale, di tipo domaniale, di tipo curtente, eccetera. Quindi questa è la congestione dello Stato. C'è stato quando c'è questa situazione qui, altrimenti c'è risoluzione, crisi dello Stato. Ora, il Pirelli ha molta simpatia per i periodi in cui c'è lo Stato, sia perché ha simpatia per i periodi in cui c'è l'economia capitalistica, perché ritiene che cristianesimo sia lo stato naturale dell'economia, lo stato di espansione, ammette che sia necessario che il periodo di regolamentazione, quindi il tipo di dirigismo, socialità, socialismo, debbano seguire a periodi di sviluppo capitalistico per correggerne i mali, però bisogna che ritorni quel capitalismo che è la condizione naturale, l'unica condizione di sviluppo. Ha simpatia per lo Stato per questo, ma ha simpatia per lo Stato a una condizione che lo Stato corrisponda al corpo sociale, corrisponda alla nazione, a condizione che lo Stato sia nazionale, cioè che lo Stato sia una struttura non sovrapposta, ma sia in quanto le forze, singole forze sociali, economiche, sociali, appunto proprio di classi, interessi culturali, capacità tecniche, interessi spirituali di qualsiasi tipo, sono queste a creare lo Stato e a volere essere cointeressati, a volerlo mantenere lo Stato. E quindi l'ideale è questa compartecipazione. O voi capite che a questo punto il divario che separa il Piren dal Lampre, io dico un'eresia, quindi i politologi che mi ascoltano non ridiranno, è quasi questione di gusto. Proprio la linea di separazione fra due mondi nettamente opposti al punto di vista spirituale è una linea fatta di carta velina, perché in fondo la giustificazione dello Stato concepita con il principio dell'Amprest è nel fatto che la nazione di Nation è diventata Stato, e nel Piren la giustificazione dello Stato come qualcosa di in sé per sé abominevole, di forza, eccetera, ma che può diventare espressione, valorizzazione di tutte le forze sociali, è a fondo in questa corrispondenza. Quindi il segno è opposto, ma la linea di sviluppo è la stessa, perché io sono molto interessato a queste ambivalenze che sono sempre in agguato, per cui da un campo si può passare a quello opposto. E questo credo che sia una lezione, consentitemelo, di carattere etico-politico, che noi dobbiamo trarre a queste considerazioni, nel senso che tante volte, al di là delle inevitabili, utili, polemiche, anche personali, nei riguardi di persone che si sembrano passare da una parte all'altra, tradire, molte volte sono dei passaggi perfettamente comprensibili, anche se può non condividerli, può non accettarli, o può farli più opposto, oppure può non fare nessun passaggio. Credo che questo sia un insegnamento che noi dobbiamo trarre proprio da queste considerazioni di carattere storico, e ci deve anche dare un ammonimento sulla sua natura di filo del rasoio su cui corrono queste meditazioni, questi discorsi, per cui il rischio è sempre presente. D'altra parte, il rischio credo che sia ciò che rende più nobile e più interessante la condizione umana. Ho imparato anch'io dai colleghi di tutto germanico. Guardate che io amo molto la Germania, io sono educato da due maestri tedeschissimi, Giorgio Pasquali e Delio Cantimori, non crediate che io, cioè, è proprio per l'amore che mi sento di poter parlare in questa maniera. Come dobbiamo fare? Dobbiamo prendere 5 minuti per aria. Io prenderei 5 minuti di aria. Abbiamo un'aria e come? Al trono? Ah, sì. Sì, credo di conoscere, sì, ancora. Sono venuto proprio qui con l'intenzione di sentire da voi ciò che ci avete visto dietro. Ecco. Sarei molto felice, no, che non sia disposto a darvi pochissimi lumi in più di cui dispongo. Vorrei parlarne. Se io fossi in primo, avrei dei problemi. No, ecco, vabbè, allora. Domando il permesso di parlare con c'è il presidente Ombra che dà il permesso. No, io proprio accogliendo il suo suggerimento, cosa io vedo dietro alle cose che lei dice, meglio alle cose che lei ci ha illustrato, in concreto poi da queste posizioni di rendere stilante. Io credo che una prima grossa considerazione da fare è che i due periodi, quello fino alla prima guerra mondiale e quello dopo, sono profondamente diversi tra loro, e se anche questi due personaggi mantengono certe posizioni, reagiscono a situazioni non solo politiche ma anche credo culturali e intellettuali profondamente diverse. E io credo che il volendo tentare di sollecitare la cosa che quanto lei ha messo in luce, non si può non fare riferimento a una serie di grossi processi intellettuali che sono nati tra il 1970 e il 1915, appunto, cioè che sono per un verso la crisi del positivismo, il ritorno alla idealismo. Come modo per rispondere a più generali processi in atto invece nella società. In fondo, io credo che sia un'altra che possono essere inseriti in quella che chiamiamo la reazione neo-idealista, perché credo che il loro rifiuto dello Stato, in quel caso, secondo me, è il rifiuto della instabilità. Questi quindi cosa vogliono dire quando dicono che lo Stato è artificiale? Secondo me vogliono dire che lo Stato si trova a dover reagire a una situazione sociale che vede per esempio le masse crescere. È uno Stato che, voglio dire, a livello di suffragio elettorale, a livello di intervento nell'economia, a livello di rapporti in generale con la società, deve fare i conti con forze nuove. E allora, secondo me, un primo tipo di lettura potrebbe essere questo. In fondo il richiamo al sociale, il richiamo ai valori, il richiamo a tutto questo è un modo per ritrovare fuori dello Stato la stabilità, fuori dello Stato la continuità a livello, credo, di grandi valori. Quindi, ecco, io la mia è un'ipotesi che una volta tanto è realmente una domanda. Pirenne e Lampre, quello di Pirenne del 96, tanto per intenderci, il primo Pirenne, potrebbe essere ricollegato alla reazione neo-idealista. Altro punto. Credo che il problema sia un secondo problema, che è quello, una volta ricostruito, come lei ha fatto al solito splendidamente, cosa questi dicono dello Stato di sé. Il secondo tipo di problemi è che cosa questi dicono dei cambiamenti che si stanno verificando nello Stato in quel tempo. Perché in fondo, dato quello che lei ci ha fatto vedere, questi qui sembrano combattere contro qualcosa che non esiste già più. In fondo viene fuori l'idea dello Stato come, diciamo, opera d'arte, perché in fondo qui si combatte il ruolo delle personalità, il ruolo del principe, no? I principi nell'età moderna, dei grandi principi che erano stati Napoleone, Bismarck, Cavour e così via. Però dico, mi chiedo, in quel periodo, in realtà, il discorso dello Stato e grosse personalità è ormai sostanzialmente chiuso. Pensiamo alla Germania del Nord e Prussia, pensiamo a quello che si sta verificando nella Francia della Terza Repubblica, pensiamo a cosa sta succedendo, a cosa era già successo nel nostro paese, no? Dopo la morte di Cavour, l'avvento dei Diadochi e così via. Allora, anche qui altra domanda. Cosa dicono questi dei cambiamenti che si stanno verificando in questo? quel periodo sullo Stato. Certo ordine di questioni. Che cosa ha significato l'intervento di storici in questo, nel tipo di problemi che si aprono, in quegli anni? In fondo, è chiaro, io sto tentando dei collegamenti in un modo un po' stravagante, perché io so alcune cose, e però, voglio dire, ho sentito quello che ha detto lei e mi mancano tutti i passaggi intensivi. Anche qui io lancio un'ipotesi che estremizzo per favorire la discussione. È vero che per quanto riguarda i miei rapporti con lei non c'è bisogno di molto per stimolare la discussione. Ma però io vorrei estremizzare. E ho l'impressione che gli storici abbiano svolto sostanzialmente una battaglia di retroguardia. Proprio perché, voglio dire, guardavano al passato e non guardavano al presente. No, questi in fondo, secondo me, si sono preoccupati di quello che stanno facendo rispetto al passato e si sono preoccupati, credo, più del problema della stabilità che non del problema del cambiamento. E in questo modo, secondo me, hanno avviato quel processo che Julien Bengas illustrerà per gli anni 30, che è il stravimento dei chiesi. Sempre attuale. Sì, ma i chiesi. Perché vuol dire che questi qui incominciano in questo periodo a fare questo tipo di cose? Perché in realtà sono più preoccupati di far vedere ciò che è valido nel passato e ciò che deve continuare perché loro crescono, perché si realizzino i valori, piuttosto che far vedere cosa invece di nuovo sta succedendo, e invece di prendere posizione sui punti realmente nuovi. Non per buttarla in politica, d'altra parte le mie posizioni sono abbastanza note, cioè dico, per esempio, va bene il sociale, va bene i valori, ma per esempio con le masse che crescono, questi qui, in che modo si attiene? Ultimo punto, che poi è un'aggiunta rispetto al secondo problema. Io credo che, per esempio, una via da imboccare per capire come questi leggono le cose che stanno cambiando nello Stato è quello di vedere il ruolo che lo Stato ha per l'educazione, perché dietro c'è tutto il discorso del culto Stato, che è il discorso dello Stato di cultura, che è il discorso sul fatto che lo Stato si deve creare la sua, società. E credo che per approfondire come questi leggano le cose che cambiano, occorra, puntare molto l'attenzione sul problema dello Stato educatore. Dunque, io posso rispondere male in questo campo perché non sono contemporaneista. Comunque, qualche impressione ce l'ho, ed è questa. Prima domanda, quella riguardante il neodialismo, il ritorno idealistico. Io escluderei totalmente una partecipazione, con partecipazione culturale del Pirelli all'idealismo. Non lo escluderei affatto per l'altro. Non lo escluderei affatto per l'Albrecht. L'Albrecht mi dà proprio l'impressione di avere meglio di condividere tutta la problematica del medialismo dell'epoca, insomma. Il rapporto tra libertà e non libertà, eccetera, tra l'individuo e la società, eccetera, mi sembrano fortemente medialistici. Il medialismo proprio di quel periodo. Invece per i Pirenne io direi assolutamente no. I Pirenne rimane per molti versi positivista. Rimane positivista anche così, con uno spirito un po' critico, perché proprio la mancata soluzione di certi problemi che si trovano in Pirenne e certe pezze che gli mette quando il discorso non riesce a essere continuo, rivelano proprio la mancanza di una formazione di tipo idealistico. Io ho accennato al rapporto tra universale e individuale, e in Tirenne è sentitizio questo problema. Ora nell'ambito mi sembra risolto, in una sintesi che va tutto vantaggio dell'universale rispetto all'individuale, e nel Tirenne in cui c'è da una parte il tentativo di sperare di conservare la varietà dell'individuo in sé per sé, dell'individuo proprio inteso in senso illuministico o in senso atomistico, eccetera. E dall'altra parte il desiderio di riaffermare l'esistenza dei valori, eccetera, il grande elogio che lui fa della cultura organica, nonostante tutto la valorizzazione degli individui singoli e dell'individuo in azioni, la preoccupazione che lui ha, l'entusiasmo che lui ha per questi momenti come la cultura romana, la civiltà romana, la civiltà medievale, ecclesiastica e quella umanistica, sono tre momenti in cui c'è stata questa comunità di idee, questa quasi costituzione di un mondo che al di là delle singole individualità ha qualcosa di comune che penetra per tutte le membra di un immenso organismo. Tutto questo non si riesce a conciliare poi con quell'individualismo accentuato che gli c'ha e denota proprio la mancanza di una formazione neoidealista. Quindi io direi che sente molto del neoidealismo Lamprecht, niente direi Irene, anche se si trova ad affrontare i temi che l'idealismo risolve. In questo senso è in quella temperie, non nel senso che lui abbia preso qualche cosa sul piano della risoluzione. Per quello che riguarda la posizione di fronte al tempo, io di Lamprecht saprei dire poco. Lamprecht era in quel momento preoccupato dei problemi della Germania. E aveva la Germania soprattutto intesa come grande nazione, che raccoglie tutte le membra tedesche dovunque se lo siano, insomma. Lui già nel 1902 parlava di dover riunire queste membre tedesche sparse nella Svizzera, nell'Italia, nel Belgio, e di loro non ha protestato. Una figura un po' dubbia, salta fuori una figura un po' ambigua del Pire, non così monolitica e cristallina come gli fa credere. Quindi il Lamprecht che si è essenzialmente preoccupato di questo, insomma, avendo scoperto questo collettivo, questa nazione, questa realtà, e allora tutto è concentrato in questo. Quindi lui sente la problematica imperialistica dell'epoca come una cosa che va avanti a tutto. Il problema delle classi via via affiora in Lamprecht, veramente non è sordo affatto. Tutti hanno il sentimento che l'età futura sarà l'età dei problemi sociali, eccetera, eccetera. Però la premessa è questa, insomma, è un po' la mentalità che portare al fascismo, prima risolviamo il problema sul piano internazionale e poi dopo ci sarà posto anche per gli altri. Quindi io credo che la posizione dell'Amprecht non ignori neanche questo, come in genere tutti i grandi storici tedeschi della fine dell'Ottocento, il problema sociale, quando l'uomo lo ignorava, stesso Bismarck, però è un problema secondario rispetto al problema aumento della conversione della nazione tedesca. Per Pirelli invece lo siamo meglio informati perché io ho portato qui l'ultimo volume della storia del Belgio, che purtroppo è del 32, quindi sono le cose sue viste nel 32, ma quando parla, questo qui è un periodo che va dalla rivoluzione dell'830 alla guerra del 1914, ma lui mi accenna anche nei vari discorsi, eccetera. Ecco, il Pirenne non ha affatto ignorato il problema delle classi sociali, quello che sta avvenendo, non solo, ma a questo proposito si è differenziato dai liberali, nei lettori, insomma, li critica molto i liberali. E lo Stato ha una funzione, acquista una funzione in questo senso anche. Io ho già accennato che Pirenne, questo io cerco la fonte, no? Io ho interrogato degli economisti che non me l'hanno saputo indicare. Il Pirenne aveva questa concezione che nella storia riuscirà a formare una sua dottrina, constato che è questo, gli economisti me lo spiegheranno, ma non l'hanno spiegato, che nella storia si susseguono delle fasi di libertà e di regolamentazione sul piano economico e sociale. C'è una fase di libertà, ho detto, è la fase creatrice, libertà è quella che crea ricchezza economica, sviluppo sociale, culturale, tutto quello. Poi questa libertà produce dei danni sociali, cioè sofferenze, disoccupazioni, differenze di classe, tutto quello che noi sappiamo. Allora dice necessariamente, poi nella storia, infatti avviene sempre così, succede a un periodo di libertà un periodo di economia controllata. E poi dopo, l'economia controllata ripara i danni, si preoccupa della distribuzione più che della produzione, è un regime contro natura, ma è un regime necessario. Però a un certo punto questo problema della distribuzione danneggia troppo quello della produzione, per cui c'è una rivolta da parte di nuovi capitalisti, non sono gli stessi del periodo precedente, né i figli e i discendenti di quelli, ma una classe nuova, animata da una mentalità diversa, con facendo i tempi nuovi, quasi produce un periodo di capitalismo e poi dopo a cui seguirà di libertà, un periodo di regolamentazione, e indicati queste 8 alternanze di questo tipo, a fare fine ai tempi suoi. Ora, il tempo che lui vive, egli ritiene che sia un periodo post-capitalistico, cioè un periodo in cui c'è stato il capitalismo, ha prodotto cose meravigliose, l'infanta, l'epopea, tutto questo, però ha determinato i nostri problemi. E il problema del suo tempo è quello di risolvere tutti questi problemi sul piano sociale, sul piano della regolamentazione. E quindi lui polemizza contro i liberali perché questa regolamentazione richiede un intervento dello Stato, richiede una politica dirigistica, eccetera, tutto il comporta, spiega il venissù di un partito socialista e di un partito cattolico, e via dicendo. Quanto se conosce considerazioni che poi farò oggi pomeriggio. Quindi lui è perfettamente cosciente di questo. La cosa si complica perché lui ritiene lo Stato importante, perché lui è favorevole all'accettazione del Congo da parte dello Stato, perché il re è una personale, una voce dello Stato, ci sono quelle polemiche pro e contro, lui è a favore dell'accettazione della donazione del Congo, è a favore dell'esecutamento obbligatorio, della leva obbligatoria, a favore della estensione del suffragio elettorale, quindi è perfettamente nel pieno di questi problemi. Soltanto egli li considera così con distacco, il cuore suo è nel periodo capitalistico e liberistico puro, e d'altra parte si batte perché invece siano posti di meglio sociale, una questione reale, tant'è vero che è affrontata da due parti, cattolica e marxista. E ritiene però che sia questo, lo ritiene un po' strumentale, un po' temporaneo, perché poi bisogna ritornare a una fase capitalistica, insomma. Ecco. Quindi direi che il Pirelli non ha ignorato questo problema del sociale, e che lo Stato abbia assunto per lui importanza in funzione di queste preoccupazioni di tipo sociale. Insomma, lui paragona il periodo che sta vivendo col periodo del 300, il periodo dell'esanzia democrazia o paybar, per me è il libro più bello di Pirelli, il libro più organico, che dà una spiegazione dell'antico regime, insomma, corrisponde al libro molto meno bello che per l'Italia ci ha dato il vecchio, come si chiama, quello che fu distrutto purtroppo dal Volpe, del più l'antico regime. Molto interessante quello di Aria. Il 300, quando alla fase di espansione capitalistica del XII e XIII secolo succede una fase di regolamentazione dove predomina l'organizzazione corporativa, industria cittadina, e dove i grandi operatori, i mercanti, eccetera, sono fatti fuori, sono costretti a venire a patti con le città, c'è un'economia controllata, eccetera, eccetera. E che però lui si rende conto che è necessaria. Per quello che riguarda, guardano verso il passato o verso il futuro, ma io non lo so, non direi dopo quello che ho detto in secondo punto, a questo punto, non direi nel senso, può essere nel senso che noi non condividiamo, può essere una direzione che è stata perdente nella storia, come quella di Lamprecht, ma indubbiamente loro, il Lamprecht guardava a un futuro dove la Germania da una parte fosse se stessa, e tutta se stessa, quindi al completamento di questo collettivo che è la nazione germanica, e quindi alle guerre di conquista, eccetera, che era il presupposto per poter fare spazio ai problemi sociali, le classi che emergevano dall'altra parte, la forza della Germania che può competere nella lotta capitaliste con l'Inghilterra, soprattutto, oltre con la Francia e con il Giappone, eccetera. E quindi questo è un presupposto importante. Quindi è guardato in futuro con questa mentalità, insomma, non c'è l'idea del contrasto, anzi c'è la strumentalizzazione, quindi la guerra sociale, la guerra tedesca, questi storici che hanno fatto questi discorsi di guerra, c'è sempre questo motivo che la guerra della Germania è una guerra che deve permettere alla Germania la possibilità di dominare i mercati internazionali, anche i tentativi di pace, di Neumann, eccetera, cioè, buoni politici che erano legati, questi liberali nazionali, legati a queste gente qui, hanno come mira di garantire soprattutto i mercati verso la Turchia, verso l'Oriente, in modo da crearsi un Lebensraum economico e permettere proprio a Tedesco di risolvere i suoi problemi sociali, di sviluppo sociale interno. E per il Pirel, questo non guarda verso il passato, guarda, diciamo così, più verso il futuro che riguarda che al presente, nel senso che lui tiene conto di questa problematica sociale, che è una problematica tipica del presente, e semmai la meditazione storica gli fa pensare che questo è un problema del presente e del prossimo futuro, che dovrà risolversi, si proietta nel futuro, però non è un punto di arrivo definitivo, perché la storia non ha mai punti di arrivo, e comunque come c'è stata per 7 volte l'alternanza di una del liberismo a un'età del controllo della regolamentazione, così nel futuro potrà essere, quindi rivolto molto verso il futuro, forse più che verso il presente. Quindi io chiedo, non so se funziona questo discorso, ecco, lo domando a voi contemporaneisti se funziona, a me sembra che sia così, ma io ho poche conoscenze per poter, che ne dice il... No, penso che magari alcune cose le domanderò di nuovo oggi dopo che ho sentito l'altra parte di questo. No, a questo proposito diceva, a questo proposito qui. Io, cioè, certo, era sopponendo alcuni elementi nuovi che l'altra parte conoscevano dal tipo del discorso che aveva fatto Matisse. Però ecco, il mio punto è quello, no? D'accordo, ci sono queste regolarità, mi sembra una grossa intuizione, peccato che da ultimo l'abbia proposta nel nostro paese Emilio, ma questa è l'idea delle alternanze tra epoche di libertà e epoche di regolamentazione. Però ecco, c'è il Schumpeter questo. Sì, ma io, cioè, però... Però per il presente, non per il futuro, ecco, non per il passato. Lo stesso tipo di problema che viene sempre fuori. Quando facciamo il discorso di queste regolarità, e lì è una domanda, stamattina sono un più democratico, lo fa paura, perché di solito ho le certezze, ma stamattina invece ho solo delle domande da fare. Mi chiedo, non c'è il rischio di ipostatizzare alcune cose? Perché, per esempio, un'altra lettura delle cose che lei ci adatta è questa, secondo me. Con gli anni 90, l'altra che vengono i discorsi che fanno, in fondo si trovano a dare risposta all'accelerarsi di una serie di processi di socializzazione. No? Il loro discorso individuo e universale, perché lo fanno? Perché il problema sta tornando fuori, perché la sistemazione è data dal primo idealismo, la sistemazione della prima età, cioè la prima metà dell'Ottocento è profondamente in crisi. Perché il sviluppo dell'industrializzazione, perché voglio dire il sviluppo della scienza, cioè il sviluppo delle comunicazioni, i rapporti tra gli uomini diventano sempre più stretti, anche perché gli uomini aumentano come numero. Quindi c'è questo tipo di processo di socializzazione. Allora io dico, il rischio di questa regolarità qual è? È che non tenga conto di, del fatto strutturale nuovo, che è, secondo l'evoluzione industriale, che è il sviluppo del processo di socializzazione. Perché questo, in fondo, lei ha perfettamente ragione quando ha fatto quel discorso, per esempio, l'Ampec, lo possiamo mettere tra gli idealisti di rendere meno. Direi niente affatto, io su questo adesso, superando il momento di bontà, comincerei subito a polemizzare, perché io non sono così sicuro che in Tirene questo non ci sia. E perché in Tirene secondo me c'è l'idealismo? Perché in Tirene c'è l'organicismo. In fondo questi qui, no? Tentano di risolvere il rapporto individuale universale riprendendo un punto ben preciso, che era quello che tra l'altro si sviluppa in tutte le varie scienze sociali in questo periodo, che è l'idea della società organica. Anche l'idea non è nuova, però non a caso in questo periodo torna fuori con particolare accentuazione. In fondo questi, quando fanno il discorso del sociale, come se lei ce l'ha presentato, ripropongono cose di organicismo. E allora, che cosa voglio dire? È vero che credo ci siano queste alternanze, quindi credo che sia vero quello che mi dice che Tirene e Lampe sono immersi nei problemi dell'ordine, ma per me rimane in dubbio che questi qui, condizionati dal passato, dalla lettura del passato, oltre della loro formazione intellettuale, facendo il discorso sulle regolarità, dicono che si ripropongono delle cose che secondo me non possono riproporsi in quella forma perché ci sono dei fatti strutturali nuovi. Io volevo provare se ha portato conclusione a questa conclusione, no? In questo senso, cioè, direi evitare di usare delle classificazioni del tipo positivismo, idealismo, eccetera, perché ritengo che sia, cioè, mi sarebbe stato da seminare, perché quindi cosa vogliamo dire quando diciamo che si vuole dire. Perché sennò veramente si può controllare. Come anche tutto il discorso dell'organicismo, è chiaro che è un discorso che è latente in questa, però sia Pace in altre che in Tirene. Però anche lì probabilmente dovrebbe poter andare a vedere il tipo di cosa si vuol dire. L'organicismo è una visione che accompagna la storia intellettuale e ideologica europea per un lungo secolo. Adesso io ho qui davanti, uno non stanno detto, avete fatto un esperimento, non so se funziona, sono un seminario, non si può fare, è uno stanno detto di un libro che si chiama Ludwig Stein, professore di filosofia all'Università di Berna, è del 1897, ed è intitolato Disaziale Frage in Liste della Filosofia, la visione sociale alla luce della filosofia, e sono delle lezioni, è del 1897. Io ho provato ad andare a vedere e vado a prenderlo quando giustamente secondo me Roberto ha detto poi il problema della sociale come momento complessivo. Poi mi darà a vedere se cita l'Andre, e lo cita abbondantemente, e lo cita in punti diversi con intenzioni diverse. Adesso porto il primo elemento di conclusione che ahimè si chiama Marx. E a pagina 400, questo tizio, Ludwig Stein, dice che lui non è d'accordo con la concezione teorica della storia, tuttavia non può negare che questa concezione ha portato dei frutti, soprattutto sul piano dei risultati, e può portare il frutto del piano dei risultati. E quello che dice, per vedere quanto è stata fruttuosa la nuova impostazione data da Marx, anche se non è così nuovo che prima si era stata, eccetera, eccetera, andiamo a vedere. I lavori così importanti, Tandler, ma soprattutto la nuova, più recente scuola della dottoressa rappresentata da Carla Lambrecht, anno, scusate, 1897. Anno interessante. E certo, perché quello si riferisce a Lambrecht che non ha ancora scritto la Gentile. Sì. Quindi quando era la Gentile? Comincia il 91 e poi finisce il 12. Comunque lui fa il non fa mai riferimento, perché lì che fa riferimento alla Grecia. Allora? È precedente. È precedente. E qui l'Andres viene indicato come sacrificio. Qui l'Andres viene indicato come colui che, forse non essendo marxista, però ha dimostrato al meglio le grosse possibilità che una pianificazione in funzione delle liberatorie può avere. E infatti dice, la presente scuola tedesca, all'interno della scuola tedesca, insomma, delle scuole tedesche, che contrapponendo la scuola di Reich, tuttavia ha imparato da Marx molto più di quanto essa stessa non sappia. Questo è un giudizio contemporaneo. No, è un giudizio interessante e giusto. Ma quindi io prima una seconda notazione, un secondo punto piuttosto importante che bisogna recuperare, perché non è una cosa che può dire è quando invece inserisce l'altre dentro a una al discorso che può interessare anche il mondo scolare, appunto Renato Mattolini, che è il nostro esperto un po' di storia del settore scientifico, eccetera, quindi anche della differenza dei modelli dalle scienze naturali scienze alle scienze invece umane, dell'applicazione delle se noi come donna, quindi nella prima lezione in Spagna in posizione, fa un panorama della nuova concettologia, diciamo così, di ricerca sociale tedesca, 1800, recuperandola dalle scienze biologiche. E qui, proprio espressamente, parla di Lambrecht come uno degli esponenti di questa più avanti ancora. Dedico una nota molto lunga a Lambrecht, proprio sul sistema riferito alla lavorazione di due con 4-5 iscrizioni che potrebbero essere interessanti, in cui continua a affrontare il problema dell'importanza che ha la metodologia lambrechtiana, il fatto che causato, cioè l'utilizzo della causalità nella spiegazione del problema. Mediando i due momenti che sono la spiegazione di tipo teleologico con appunto la spiegazione di tipo causale, no? E quindi inquadra Lambrecht dentro a quella corrente che in Germania applica poi in fondo, dentro ricordato in fondo, nel campo delle scienze sociali, questo tipo qui di pretesa scientifica che va bene. In questo secondo qui di Marx, scusi una cosa, questo è un altro punto. Vorrei dire che ricordare anche un'altra cosa, che stiamo parlando più di Lambrecht perché non è che lo conosco meno, ma conosco forse meglio di Lambrecht. Vabbè, per me è più interessante di dire questo. C'è un terzo punto, cioè, no, che è ovvio, che è banale. No, cioè. Scusa. Grazie. C'è un terzo punto che è banale, è ovvio, no? Cioè, noi sappiamo il tipo di reazione che la fotografia di Lambrecht ha provocato nell'ambiente accademico tedesco, nella fase che esiste in Germania. È una reazione violenta, è una reazione turistica, una reazione di negazione proprio, che viene da due parti, viene da scuola, diciamo così, Marx, il professor, viene da Reich, e viene anche però da Heinrich, cioè viene anche dalla storia di entrando queste correnti, adesso appunto torni nella literatura per gli annali 2, questo articolo di Röttgen sull'origine della letteratura sociale in Germania, che la succede sarà molto interessante, non ricordo neanche più vedere, può anche stare a qualche ricordo più recente, però è un dato di fatto che l'altro viene fatto fuori, Ferocissimo. Basta che sia ufficiale, non lo riconosce ancora. Anche Bernanke, che ha studiato un po' il riflesso di questa polemica tedesca sulla rivista italiana, in qualche misura, è un po' stato, no? Quindi anche questo, però, come si sa, questo anno si presenta da questi tratti, a prescindere, non ho mai detto, però, a prescindere da come inquadramento nell'epoca si presenta come un grande nodo. Viene presentato come un innovatore anche perché c'è effettivamente una reazione dura da parte delle Stati. Un'altra opera sulla società estrae, questa è una cosa che è morta, che è ciotto, no? Inserisce... 918. Inserisce l'Antrex dentro a un capitolo che è intitolato alla Trattenkamp. Cioè, Trattenkamp investisce un game bar. La nota di Trattenkamp nella storia è presente. No? Quindi, anche questo qui è un dato molto importante da considerare. Io credo che questi elementi portino a sfumare un po' quella indubbia, ovviamente giusta, insomma, no? Osservazioni, o comunque quei sospetti che lei ovviamente solleva sopra appunto l'eticità della fotografia di Lampre o comunque del suo concetto di stato. Ecco. Io direi che ho l'impressione che lì bisogna andare a vedere un pochino, per cercare di capire dentro alla cultura tedesca, insomma, c'è un nervo che è un nervo anche di funzionalità, insomma, no? Tecnica, che è una cosa, che è quello che ho appena detto l'altra. C'è anche un altro nervo, che è un nervo che è un po' più, come dire, ideologico, un po' sbagliato, un po' culturale, un po' di tradizione, che evoca ovviamente delle tematiche popolari, nazionali, continuazione, e che qualche volta magari può andare sopra il vento, sull'acqua, può dare una luce di un certo colore sull'altra, ma che però ha una sua autonomia, insomma, cioè, bisognerebbe parlarla continuamente, secondo me, per poter capire il contributo che questo si porta. Non è un caso, concludo, ma avete andato a dire che è stato bene, non so. Cioè, non è un caso che anche questo non lo so, quando si sta cercando di questo, adesso devo dire un po', la nuova, quella che si chiama, Giorgio Zaghi, che è una donna di 20 anni, è una donna degli anni 70, insomma, a capo della vita, sicuramente, di Cicci, di Lechart, vede, cioè, stabilisce una, diciamo così, un altro genealogico suo, questo capire, che passa per Bruno, passa per Vince, passa però per Kehl, però arriva tanto. E non dimentichiamo anche un'altra cosa che Oppenheimer dice in questo articolo, mi pare che fa una puntata potente nel mondo delle anal e dei francesi, no? Dei polemisti, quando dice, guardate che da quelle cose che vi racconto risulta che alla fine del processo in Germania le cose si chiedono. Questo spero, no? Non ho contributo, solo potrei. No, è interessantissimo. No, ha utile merito. Dopo vorrei sentire il resto su Pirelli, se mi interessa. Dunque, a questo proposito, molto chiarificatore, e l'opuscolo che Deutsche Historiker, quelli che sono stati pubblicati alla scuola di Francoforte, hanno dedicato all'Andre, i quali hanno dedicato a delle cose che gli altri non dicono normalmente. Ora, la situazione sta così, che c'è stata un'evoluzione in Andre. Questa evoluzione richiede uno studio comparato delle diverse edizioni della storia di Egitto. Questo è il punto fondamentale, perché normalmente noi abbiamo le edizioni molto tardi, del principio del Novecento, come sono riuscito a vedere io, eccetera, o che perlomeno risalgono alla, specialmente per i primi volumi, di cui è questione, perché nei primi volumi di cambiamento, risalgono alla seconda edizione, non alla prima. Io ho accennato a questa relativa, non l'ho vista, perché, ma no, alcune pagine fotografate della prima edizione, perché lui, quando ha scritto la prima edizione, è arrivato fino al quinto volume, dicevo, il 96, e era una data interessante, il 97 l'articolo di Irene, è già scoppiata la bagarre, insomma, è già scoppiata la polemica violentissima, dove l'Amblet ha tutto la storiografia ufficiale contraria, fino a in una trasmissione televisiva, come se il settimo giorno, ho partecipato anch'io, e ha parlato il direttore dell'Istituto Storico Germanico a Roma. Si trattava di parlare del libro di Brodelli, insomma. E si è detto, avete tutto l'Amblet. Assolutamente vero. L'unica novità, a mio avviso, della scuola delle Annali sta nella storia agraria. Nella storia agraria l'Amprecht era già arretrato, era fedele alla scuola Ina, Materne, eccetera, eccetera, ed è rimasto quel punto lì. E l'Amprecht, sulla scia di Pirello, cioè di Lande, è rimasto fermo. Quindi la grande novità concreta e sostanziale è il problema delle culture, di Bloch, più che di Femmer. I motivi di Femmer sono già annunciati anni questi dall'Amprecht. Quasi mentalità, c'è tutto, la storia del non cosciente, c'è tutto. Ora, l'Amblet ha fatto i primi 5 volumi, è arrivato al 5° volume, quando scoppia nel 96-97 la grande polemica, gli è scoppiata un po' prima con lo Schaeffer 93, però nel 96-97 proprio scoppia la grossa polemica. E c'è la seconda edizione del primo, con la lunga introduzione. E in questo momento c'è la svolta. Quindi, per quello che io so, i primi 5 volumi nella prima edizione sono fatti ancora alla vecchia maniera. Con la seconda edizione, che è del 96, del primo secondo volume, c'è già il cambiamento. Il cambiamento è tutto questo, che c'è un certo, se non abbandono, una certa preoccupazione cosciente di abbandonare il marxismo. Perché il Lambrecht era stato accusato di essere. Nella polemica che viene Plekhanov, che lo riconosce come marxista, ma non ortodosso, discute il suo marxismo, eccetera, eccetera. E allora il Lambrecht tira fuori la faccenda della psicologia collettiva, degli stati socio-psichici, i famosi stati 9, quanti sono, non li vorrei elencare. E allora toglie dalle basi toglie il marxismo, perché gli dice tutti i diversi modi di produzione. E le diverse strutture sociali, i diversi comportamenti dei lavoratori, del datore di lavoro, eccetera, i rapporti, i modi di produzione, strutture sociali, rapporti di classe, eccetera, sono determinati dallo stato di psicologia collettiva dominante nella collettività in quel dato momento. Questa è la base di tutto. Il resto deriva di qui. Quindi proprio con l'intenzione di togliere dalla base il marxismo. C'è stato questo. Che conferma che il marxismo c'era stato, che i problemi sociali rimangono una preoccupazione di Lambrecht e tutto il resto. Quindi invece perfettamente il problema è questo. Ora qui ci vorrebbe uno studio sistematico, che è un'opera ciclopica, eroica, delle diverse redazioni dei volumi della storia, perlomeno fra la prima e la seconda edizione, i primi volumi. Poi per i volumi dal 6 in poi, dal 500 in poi, sono concepiti già nel nuovo sistema fin dal principio. E quindi a maggior ragione nella Deutschland-Gesellschaft, eccetera, siamo a motivi marxisti che ci sono accanto ad altri motivi. Per quello che riguarda il problema dello stato etico, eccetera, e quando c'è l'accentuazione del momento psicologico come il fatto fondante cui parte tutto il resto, e siamo, ripeto, con l'intenzione di portare a elementi spirituali la sorgente di tutti i testi, è chiaro che l'educazione diventa un problema importante. Ora, se a questo si aggiunge che siamo al momento cruciale anche dell'imperialismo, del pangermanismo, eccetera, di una preoccupazione che non contraddice, non nega le preoccupazioni sociali, ma si accompagna e diventa poi, man mano che si avvicina la guerra e arriva la guerra, appunto per il sopravvento. E quindi in questo io vedo gli ultimi libri sono terribili, i libri di storia contemporanea. contemporanea è forte esibile, poi visto il pangermanismo, questo problema, questo fatto dell'eticità, dello Stato, eccetera, sto vivendo sempre più terribili, c'è indubbiamente un'evoluzione. Ora, per quello che riguarda la concezione che si hanno oggi i storici detti, insomma, disse, quello che è l'opinione comune degli storici, così si sono detti interpellati, dicevo, sì, però le analdi arrivano, cioè sono già tutti quanti presenti in Lambret, e Lambret era semplicemente storico locale, e storico locale, pure e sempre. Ora, in Lambret io per esempio grande ammirazione, perché io sono essenzialmente lo storico locale e uno dei miei antenati, cioè Lambret ha fondato la società, non so come si chiamava, di storia locale della Renania, quando era a Bonn, e quando poi è andato a Lipsia ha fondato la fondazione di storia locale della Sassonia, quando era lì, e lui ha le origini. Un tema che sarebbe molto molto interessante sarebbe quello di studiare la storia della storia locale, della storiografia, della storia che si occupa della storia locale, nella produzione e anche nell'organizzazione, nei criteri di organizzazione, eccetera. L'Ande Seconde, e naturalmente perché lì si fa storia totale, storia totale con un ricorso a tutti i tipi di fonti possibili, immaginabili, dalle tradizioni alla linguistica, con l'applicazione toponomastica, eccetera, novellistica, le leggende, il folklore e tutto ciò che si può immaginare. In Italia il Dalbane, non citando il Dante, forse conoscendolo, nel 47 è quello pubblicato in quel volume che racconti sui studi, le sue corruzioni, eccetera, della reputazione romagnola Italia Patria, ha ripreso questo tema, che come nella storiografia locale è finita per un certo verso con la fine del nazionalismo, del risorgimentalismo, eccetera, però può cominciare sul piano della storia totale, storia delle strutture, storia dell'ambiente, cioè. Io l'ho ripreso in un altro mio lavoro che ho fatto sulla storia locale e che ora ripubblicherò di nuovo, allargato, tutto diverso dalla lezione francese, che nasce al tempo del Bisocco, come dice la Moistolini, un'altra cosa, più questa qui invece non la scuola del Kunde, la più paleografica, legata a tipo e cose esatte, cose del genere. E sarebbe molto interessante professore, perché i tedeschi è terribilmente limitante questo. Quindi la storia non locale, tutta storia dove c'è in qualche maniera di fare. Anche la storia, il suo storico germanico a Roma ha studiato le propaggi del Reich in Italia. Nei primi incontri che abbiamo avuto noi in Pisa, che abbiamo, grazie alla bontà, direi paterna, che è l'affetto paterno, perché paterna per me si è cambiato ufficialmente, questo sono resi conto che veramente è una storia del Reich, quando studia una storia italiana, locale, con l'esigenza nostra della storia del basso, c'è stato un incontro per cui noi abbiamo acquisito un po' più di interesse per la storia di vari elevati, e tedeschi hanno acquistato un po', grazie ai nostri contatti con noi, più interesse per la storia locale. Quindi io credo che la questione sia in questi termini, sia veramente il marxismo, ma c'è crescente questo interesse per desiderio e volontà intenzionale di superare questo, a che punto lo supera veramente, e poi era abbastanza confusionale, fumoso effettivamente il Lambret. Guardate che c'è certe pagine dove va a ruota libera, diciamo, diciamo la verità, quando parla del fai sul vecchio, dice i nomi intelligenti, l'uomo vivo, vero. Io poi ho fatto l'esperienza per caso, perché ho fatto il medesimo viaggio. E sono andato dal Belgio, ero a Lovanio, per la via di Liegi, sono andato a Pigrana, da Pigrana per avermi il viaggio, non per la partita, ma per il congresso sulla povertà. E mi ripiace che ha fatto l'inverso l'auto, e lo racconta. Dice, voi viaggiate, e credo che dalla Germania, andando in Belgio, si entra nella zona Vallone, non nella zona fiammica. Ebbene, poi guardate a finestrino, a questo punto comincia le case, cambiano di tipo, la gente vestita diversamente, colore i capelli diversi, parlando in maniera diversa, non così, ma così, e via di seguito. È una sensazione vivacissima, il mondo cambia, i paesaggi, è tutto. Intanto queste impressioni in questa maniera qui, che indica la ricchezza dell'uomo, la sensibilità per aspetti minori della vita, che punto poi è passato con le grandi scuole, ma anche così il carattere di psicologia piccola, pratica. Quindi questo credo che sia la risposta più pura. Poi cos'altro c'era? No, era l'aspetto, diciamo così, scientifico, tra virgolette, cioè l'uso, l'utilizzazione all'altro per pretendere. Beh, io credo che ci sia anche quello, naturalmente. Credo che ci sia anche quello che. Ora, come diceva prima Ruffini, ho raccolto un aspetto, che era un problema ancora quello delle personalità, non personalità, era un problema superato, i grandi uomini erano passati. Ebbene, questa gente parte da una storia sociale, così di base, e poi pian piano per due vie diverse danno sempre più importanza all'individuo, insomma, perché mettere lo Stato al centro o non al centro della storia come impostazione significava mettere l'individuo. Che strana, così a noi oggi non verrebbe in mente questa identificazione così stretta tra storia dello Stato e storia degli individui privilegiata sulla storia della società. A quell'epoca appariva in questa maniera perché effettivamente guardavano al passato, la storia del passato era la storia degli Stati e la storia degli individui. Ebbene, però il Lamprecht per la direzione, diciamo così, imperialistica che prende la sociologia con preoccupazione, il Piren per la preoccupazione di allontanarsi da questo, di non cascare nella statolatria, nello stato etico, eccetera, eccetera, e sono portati ad accentuare l'individuo. Ma il Piren è sensibile a questo, è sensibile a questo problema, perché a un certo punto, parlando della propaganda di guerra e della storiografia politicizzata come propaganda, dice più o meno queste parole, dice, beh, la storia fatta come propaganda oggi, 900 della guerra mondiale, insomma, è molto più pericolosa di quella di altri tempi, proprio per la natura diversa che hanno preso gli stati e le nazioni, e il peso diverso che era la storia, perché prima, quando si trattava di svolgere una storia propagandistica in problemi di guerra, bastava convincere 4 re, 40 diplomatici, di giuristi, costituzionalisti, internazionalisti, eccetera. Quindi si trattava di problemi se la dinastia scendeva in una certa maniera o in un'altra maniera, se quel trattato era stato fatto in una maniera o in un altro, veniva prima quello, dopo quello, il discorso era lì. Mentre invece adesso, questa segregazione di propaganda politica deve, è molto più pericolosa, perché deve raggiungere i singoli individui, deve convincere uno per uno che è giusto di andare a fare la guerra, di morire per la guerra, soffrire la fame per la guerra, per la casa e tutto per la guerra, eccetera, eccetera. E quindi deve attingere a ben altri argomenti, che dire la discendenza in questa linea di una dinastia è così, il trattato comprendeva questo come da quell'altro, deve convincere della giustezza assoluta di una causa e non di una giustezza relativa contingente, quindi creare i motivi geografici condizionanti, Lebensraum, creare le ragioni storiche, i nemici storici, tradizionali e tante belle cose, quelli con tutti i pericoli che succedono per la storia, che derivano per la storia e per l'individuale. Quindi sono sensibili questa gente ai tempi nuovi. Quindi questa sensibilità si manifesta. Anche Piren, insomma, conosce perfettamente il marxismo, poi la storia delle Rosse, la storia del Belgio per età contemporanea. Informare tutto questo, eccetera. Quindi, però, certe volte si ha l'impressione di una sua specie di marxismo, nel senso che l'aspetto economico, la forma politica deve corrispondere alla forma sociale, la forma sociale deve corrispondere la politica, le istituzioni giuridiche alla costituzione sociale, la costituzione sociale a quella economica, e in questa diciamo così. Corrispondenza c'è la validità dello Stato, però altre volte lui insiste sul fenomeno della coincidenza più che sul fenomeno della causalità e quindi sulla casualità, perché anche il caso si sviluppa sempre più nel Piren rispetto, e il caso e l'individuo sono due elementi che vanno contro alle posizioni iniziali. essenziale, insomma, i ciechi individualizzano la storia, sia l'individuo, l'importanza dell'individuo sia l'importanza del caso. Per organicità io vorrei saperne molto più di voi, ovviamente questa gente qua, un'idea abbastanza organica, la società ce l'ha, ma molto molto molto più forte ce l'ha in volte, enormemente più forte ce l'ha in volte. Però su questo punto io non sono informato e mi piacerebbe molto sentire un discorso sull'organicismo. Credo che, per esempio, che almeno sempre da questa cosa qui, l'identità si creata la visione alle teorie evoluzionistiche, cioè è il problema di Darwin, semplicemente il punto di gratificazione, infatti non è caso, mi sembra molto più questo di esistenza, la prima volta per esempio diceva dell'altro sta in loro, sta in questo piano. Adesso lo stiamo parlando, per me è una miniera molto importante per poter parlare. Allora, lo design rispetto all'altro lo imputa, ovviamente, con Spencer, proviamo con Darwin, imputa all'evoluzionismo, non parlo di evoluzionismo, ma di evoluzionismo, e correttamente non parla in generale di uso più o meno metaforico, analogico, di diciamo teorie vagamente di scienze naturali, ma di teorie biologiche, quindi è costretta come limitazione, quindi non è più un organismo, ma è quello che mi sembra che sia molto importante questo di una cosa è che il concetto di organismo è abbastanza basso, un po' di punto di comunque da quanto lei ha detto di Firenze, di Firenze d'anno per quello che riguarda il concetto di migliori sociali, ho questa impressione. L'impressione di una lettura, comunque di una conoscenza di Claude Bernard, di un'opera di Claude Bernard, di questo, alla fisiologia esperimentale del 1865, che stranamente è nota ai filosofi, forse anche ai filosofi, non so, sicuramente ai filosofi, se ne discute molto, per esempio, nei registri di filosofia, ma non è considerata, non è resistita, invece, la filosofia. In quest'opera, purtroppo noi non abbiamo, quindi io non andiamo a cercare qualcosa che si è lasciato proprio il concetto di migliore sociale, si sviluppa il concetto di migliore interiore, che rappresenta l'organizzazione, vivente. Che cosa voglio dire, purtroppo non avendo l'opera e una delle sue concetto non posso ricordare i passi che si chiamano. Però il fatto di avere il Bernard introdotto nell'ambito delle scienze fisiologiche il concetto di ambiente interno, che cosa vuol dire ambiente interno? Ambiente che cosa? Interno, l'ambiente interno è tutto l'ambiente vivente. Si non crea, per esempio, da sé naturalmente delle malattie, ma ha delle malattie per esempio per intossicazione, per come elemento esterno. Questo è un caso pratico, perché in un seminario che abbiamo parlato di Virgo, tutte le malattie hanno un'insorgenza esclusivamente in termini sociale, la terminologia di Bernard, interna. Derivano dal tessuto stesso, dalla singola cellula. Per Bernard, invece, ci sono proprio i casi in cui la lesione è opera effettivamente di un'interpretazione esterna. Quindi dall'interno tutto andrebbe secondo un certo piano prestabilito. Il problema mio è questo. Perché lei in realtà mi ha anticipato la domanda, non ha sapendo il testo, devo fare corso a una memoria facile e quindi non potrei dire esattamente cosa Bernard. Io mi segnerei intanto il titolo. Claude? Claude Bernard. E l'opera, la prima edizione. Dunque, anno? 1885, ci sono varie città, quella che ho io è curata da continente. Va bene, poi. Va bene, grazie. Poi dunque, a questo proposito, io vorrei rispondere questo. Che c'è una cosa che mi ha molto interessato in quello che ha detto lei. Ed è questo. Questo medico non era molto recepito, molto considerato nel suo ambiente, molto considerato in altri ambienti. Filosofi. Questo è molto interessante, perché è un po' la sorte che ha subito l'Albrecht. E dal punto di vista culturale, sono proprio quelli che non sono considerati dagli propri specialisti del proprio campo, quelli che hanno una maggiore influenza al di fuori, che lo stesso fatto di non essere considerati vuol dire che hanno introdotto dei discorsi, dei metodi, delle esigenze un po' allogene, per cui c'è il rifiuto da parte dei propri e la citazione invece da parte degli altri. Primo punto. E quindi questo è un elemento che dà importanza all'osservazione che lei ha fatto. Secondo luogo, questi autori qui, più di noi, meno di noi leggevano, io credo, autori, libri di scienze collaterali, eccetera, più di noi avevano le orecchie tese, parlavano, eccetera. Anzitutto per il fatto che allora l'università era veramente un'università. E quindi il rapporto fra colleghi di diverse facoltà, fra un letterato, uno storico, un filosofo, non solo, ma fra questi e un biologo, un medico e sia uno zoologo, doveva essere molto più stretti, come per tanti casi noi sappiamo. E poi, come io stesso ho fatto un po' di esperienza, ma soprattutto i miei amici un po' più anziani hanno fatto esperienza, io vedo a Pisa, io sono il primo della generazione che non è amico da sempre dei colleghi ordinari di medicina, eccetera, mentre i miei colleghi che hanno 10 anni più di me sono vissuti, sono nati insieme con colleghi di medicina, con colleghi di ingegneria, con colleghi di scienze, eccetera. Questo è molto importante. Ora, dell'evoluzionismo, ora, rimproverare all'Albrecht un certo evoluzionismo è legittimo. Intanto c'è un evoluzionismo. Questo comunque individuare è legittimo. Innanzitutto c'è un evoluzionismo voluto sul piano psicologico, perché c'è un'evoluzione da uno stadio all'altro, psicologia sociale, e questa evoluzione ha qualche aggancio con un'evoluzione anche di altro tipo. Ora, sul problema della biologia, elementi biologici, questo tipo qua, in Pirelli sembrano abbastanza estranei, sono più presenti in Lambre. Dove sono presenti infinitamente, dominanti, forse. Basta fare una lettura di lessicale di volte, molto è ricco di immagini, ma l'abbondanza, ogni pagina, io la copia mia che ho di Lambarda e Romani, ho segnato questi termini di riferimento alla biologia, le immagini, ma sono straboccanti e non così per belluria, per un'aggiunta in più che si può togliere, molte volte proprio per esprimere l'idea che lui si è fatto di un certo rapporto, non riesce altro che a tirar fuori i termini biologici. Poi ci sono degli aspetti di addirittura, per esempio, in un certo punto, che noi sembrerebbero razzisti o simili, lui quando parla della classe feudale più elevata, quella al massimo livello, quella che rimane essenzialmente longobarda, con aggiunte di franchi, bavari, sassoni, eccetera, venuti per i carolingi, e che rimane caratterizzata abbastanza fortemente come germanica, che poi non ha molta importanza, perché fa le altre cose, dice questa gente non fa figli, è seria. Poi, parlando della realtà sociale media o inferiore, laddove che deriva tanto da romani quanto da longobardi, e che è la classe che è il sale della terra, è quella che veramente determina lo sviluppo, mette in moto tutto, la storia, la civiltà, cioè quella è molto prolifica. Sono espressioni di questo tipo, sono frequentissime. Ora, ho detto volte, qui prendete Carducci, le immagini le tratte dalla presenza della biologia in Carducci sono eccezionalmente importanti, sono numerose e eccezionalmente importanti. Fanno enorme impressione sia nelle opere poetiche, sia nella prosa, sia nell'opera poetica soprattutto, e anche nella critica letteraria carducciana. E si spiega con la presenza di, c'erano in Italia, c'erano quattro, veramente, ed erano questi qui, erano stranieri, erano, uno era olandese, insomma, e poi uno era a Roma, un famoso, Mollishot, e poi c'era Firenze, se non mangi, quello ecco, c'è un istituto ancora che si chiama a Roma, a Firenze, e ce n'erano tre o quattro. In Italia, che credo che avrebbero avuto importanza notevole, incontrollabili perché sono riunite sedute al caffè o cose del genere. Credo che bisogna arrivare a questi livelli per spiegare queste cose ci sono. Ora, per quanto riguarda così una concezione delle strutture sociali concepite proprio come un organismo, sì, questo c'è qualcosa anche nei fatti di Irene che ho letto, eccetera, quando mi dice non una somma di individui, ma se dico, ci fosse, ma se ci fosse una influenza sottolineata a livello dei concetti espressi all'inizio oggi, direi che è stranamente nel concetto di storia universale come storia delle azioni reciproche delle nazioni a loro. Ove questa storia delle nazioni reciproche, la storia di questi fatti, rappresenterebbe internare le funzioni dell'organismo che costituiscono l'ambiente interno. Per cui cioè non c'è la funzione della singola cellula in quanto cellula, ma c'è in quanto è connessa a funzioni di cellule di tipo diverso. Quindi l'azione fisiologica, in fondo, è lo studio dei rapporti strutturali di cellule diverse che porta a una funzione. Cioè voglio dire, sì. Cioè non è che c'è qui un elemento che dà di per sé da solo una funzione, ma d'accordo. La funzione è nei rapporti, sì, tra... Sì. Ora io questo non lo so se ci sia, può darsi, forse c'è un pochettino in Lambrecht, non direi che ci sia in Firenze, non direi che in Firenze per questo motivo, perché in Firenze questo accento a questo, per combattere un'idea di questa organicistica, di un organismo che ha il suo piano genetico, diremmo oggi, fin dal momento della sua costituzione, e che poi lo va avanti sviluppandolo dall'interno, eccetera, eccetera. Invece lui dice, no, l'organismo è quello che è, l'organismo come individua persona, come gruppo sociale, come gruppo nazionale, è quello che è in quanto riceve dall'esterno qualcosa che non sarebbe mai capace di produrre dal suo interno. E più riceve dall'esterno, più si arricchisce. Ora, come un organismo riceve, può anche dare. Ora, la storia universale è la storia di tutti questi rapporti, non in quanto queste singole trasfusioni in una direzione o nell'altra siano tutte strette da un nesso, condizionate a vicende, costituiscono una realtà. No, in quanto per il questo è estraneissimo. Noi constatiamo obiettivamente che ci sono queste cose e che molte volte sono determinate da puro caso, da un'invasione, anzi c'è un'idea proprio meccanicistica quasi, di spinte contro spinte che vanno, perché per lui conta soprattutto la collocazione di un popolo in un certo posto, nell'occupare una certa area e in quel posto trovarsi a contatto con quello o con quell'altro. E poi nel gioco di reazioni e contrareazioni tali che a un certo punto lui questo lo interpreta come caso, perché sfugge a una possibilità di comprensione unitaria, di una spiegazione. Quindi a me sembra che nel Virenne sia proprio per formazione sua mentale completamente estraneo, cioè è più una mentalità meccanicistica che non una mentalità organicista, cose che invece non escluderei invece in Lamprecht, non dico la vedo perché non ho competenza abbastanza per dirlo, ma dall'insieme direi che non escluderei affatto in Lamprecht. Mentre invece in Pirenne, ora diciamo che lì Pirenne espone il pensiero di Lamprecht, facendolo suo, ma espone il pensiero di Lamprecht. E vi ringrazio perché ho imparato un sacco di belle cose. Mi mette la firma qua? Ah, grazie. Siamo arrivati agli occhi. No, non so dove ero. Tu dovresti dare il proprio lavoro. Ma quanti lavoro è quello che tu che cosa? Ma tu la lista del 500. Un lavoro favoloso che ha avuto un grande successo, sul serio, ed è molto bello. Il dominio del bolognese che taglio lo producerai qui. Lo si vuole provare. No, volevo farmi vedere che c'è proprio la. È la risposta a Karen, no? Credo sia. No, aspetti, No, devo vedere. Abbiamo qui la vera. Dunque, io adesso, questo pomeriggio, vorrei riprendere il discorso che ho appena accennato molto schematicamente stamattina, struttura di lezione, quasi lezione, quasi ad annunziare il tema. Cioè, come appare concretamente lo Stato nella storia d'Europa del Pirenne. Volevo soltanto aggiungere un'osservazione. A proposito dell'importanza che lo Stato via via ha acquisito nella storiografia del Pirenne. Nella prefazione all'ultimo volume della Histoire de Belgique, il Pirenne fa proprio queste osservazioni a proposito della importanza che la storia politica e quindi delle istituzioni politiche che caratterizzano lo Stato moderno acquistano nel suo racconto, che man mano che si va avanti al primo volume fino all'ultimo lascia sempre una più larga parte alla storia politica, alla storia diplomatica, alla storia degli stati, più larga parte alla storia dell'individuo. E lui dice nella prefazione: il est sans doute inutile d'ajouter que l'histoire politique ne se présente ici que dans l'ambiance morale, économique et sociale dont elle est inseparable. Fin qui è chiaro. Che la storia politica è presentata soltanto in tanto in quanto è inquadrata nell'ambiente morale, economico e sociale. Au fond, les partis ne sont que la projection sur l'écran parlementaire des grands mouvements qui agitent une nation. Quindi i partiti sono soltanto una proiezione sullo schermo parlamentare dei grandi movimenti che agitano una nazione, quindi il corpo sociale. I partiti sono un fatto esterno. quindi la realtà sono queste forze, le sources d'énergie auxquelles il s'alimente coulent d'ailleurs trop largement pour qu'il puisse les épuiser. Le fonti d'énergie a cui i partiti si alimentano scorrono troppo largamente perché i partiti stessi possano esaurirli. Quindi la realtà è più grande, è più ricca, più viva di quella di realizzazione politica che questa realtà diventa poi nei partiti. Que de problème qui le dépasse ou le domine. Les questions débattues dans les chambres, c'est le pays qui les pose et c'est donc lui qui convient d'étudier si l'on veut en apprécier la portée. À tout prendre, l'histoire de cette période est une belle histoire. Elle l'est par le nombre et l'importance des problèmes qui l'ont agitée, par l'énergie qui l'a soutenue, par la pratique de la Constitution, la plus libérale du monde, par l'application loyale de la politique de neutralité, par l'action des souverains de valeur exceptionnelle, etc. Quindi è una rivalutazione da una parte dell'aspetto strettamente politico, effettivo della posizione personale del re, alla memoria del quale Pirene era fortemente legato, ma d'altra parte è l'espressione della coscienza che questo è soltanto un limite. La realtà sociale è ben più grande di quella che si esprime nei partiti, i quali non la esauriscono, certo, tutta quanta. Ora, se noi ripercorriamo qui la storia d'Europa alla luce di queste considerazioni, vediamo l'applicazione concreta che questi aspetti hanno. Ora, voi conoscete tutti quanti la teoria pireniana del passaggio dal mondo antico al mondo medievale. Ora, questo è un tema di discussione soprattutto per ciò che riguarda il momento in cui la teoria pireniana è stata concepita. Uno dei maggiori, legato fino all'ultimo, allievi del Pirene, François-Louis Gansoff, successore della cattedra di Gaulle, mi sosteneva, mi diceva, ho tenuto la fortuna di avere stretti rapporti con lui per lunghissimi anni, adesso è molto vecchio, ancora ragazzo, una bellissima casa, possiede una splendida collezione di bastoni che io gli invidio, sono tutti infilati nel portamenti all'ingresso. Sogno sempre che ne nasci un'eredità. E mi diceva che la teoria pireniana è nata durante la guerra, come reazione della guerra. Io credo che non sia così. Gansoff ha avuto la cortesia di mandarmi una copia stenografica degli appunti che Pirene dettava del suo corso. Ora, è interessante, questo corso era un corso di storia generale del Medioevo europeo che terminava all'inizio del 300 e non senza motivo, come noi vedremo. Quindi questa grande storia d'Europa, a cui stesura ha meravigliato tutti, è stata annunziata come fatta senza l'aiuto di sussidi bibliografici, non è vero assolutamente. Pirene già quando era ancora in prigionia aveva tutto uno scaffaletto di iconografia come fonte storica e dimostra che aveva una serie di libri, fra cui le docce che esiste di Lamprecht, che si possono intravedere i titoli. Poi è stato un certo periodo a Iena, frequentava la biblioteca, ho trovato che ha pubblicato, che ha scritto un lavoretto che poi ha pubblicato molti anni più tardi, un tipo di ricerca. Poi quando era confinato a Kreuzburg an der Werra, riceveva i libri in prestito regolarmente alla biblioteca di Iena, riceveva libri che gli mandavano amici danesi, quindi di paese neutrale, quindi insomma non ha lavorato, operava lì manuali tedeschi, poteva trovare nel gimnasio locale, quindi non ha lavorato senza sussidi bibliografici. Ebbene, in queste di Spencer del 1913, dove lui aveva già tracciato la storia d'Europa praticamente fino al principio del secolo IV, e noi troviamo già in luce la teoria della chiamata poi pireniana, cioè la teoria che pose due parti: una parte la continuità essenziale della storia, al di là anche delle invasioni germaniche, le quali non avrebbero influito nella continuità stessa, e dall'altra parte invece la cesura a seguito delle invasioni musulmane. Ora, per il Pirenne tutte le invasioni hanno una eccezionalissima importanza, tutte salvo quelle germaniche, quelle del V secolo. Ora, questa teoria era già in luce, quindi gli appunti che io ho sono del 1913, quelli quando Ganzhoff era studente, ma anche dallo studio delle recensioni, che sono molto interessanti. Pirenne aveva l'abitudine, un uomo che sapeva amministrarsi benissimo, aveva l'abitudine di scrivere molte recensioni, però concentrandole tutte sul tema del quale di volta in volta gli si occupava, perché secondo i lavori che stava facendo, di ricerca personale, c'è un gruppo di recensioni uscite proprio contemporaneamente. Anche quelle pubblicate sono pubblicate senza le note, purtroppo, perché le note invece lo scritto originale sono estremamente interessanti, ci sono alcune anticipazioni di articoli che gli avrebbe fatti scritti dopo. Ora, la storia d'Europa rappresenta effettivamente una fase di transizione un po' nei riguardi della teoria pireniana vera e propria. Questo non ne appare con tutta la sua nettezza a questo primo periodo, come ha detto qui sarà formulato poi dopo negli articoli del 1922, articolo che si è chiamato Mahomet e Charlemagne, poi l'articolo del 1923, un contrasto economico, periodo di Merovingi e periodo di Carolingi, e infine tutta una serie di articoli fino al 1928, dove presentò di nuovo la tesi al congresso di Oslo in polemica con Alfred Dobbs, e poi dal 1928 infine fino al 1933-1934, quando cominciò a scrivere e lasciò così nella prima redazione il Mahomet e Charlemagne, il volume che ne conosciamo. Quindi che ha avuto una storia molto laboriosa. Io ritengo che la tesi come elaborata nel 1922-23 sia sostanzialmente diversa dal punto di vista del motivo ispiratore rispetto al libro. Il libro Mahomet e Carlomagno, a mio avviso, è l'opera peggiore che noi abbiamo di Pirenne. Non credo di scandalizzarvi con questo, ma è l'opera peggiore. Così, subito dopo, un po' meno peggio, e Levin, i due libri famosi, tutte le altre cose sono molto migliori. Proprio più accademica in fondo. Va bene che Pirenne aveva scritto una prima redazione, scriveva sempre due redazioni di tutti i lavori a mano, e il primo era una redazione così molto sbottata, appena sbottata, lui chiamava Le Monde, e poi dopo lo scrive una seconda redazione, che era quella definitiva, con molta accuratezza stilistica. La differenza sostanziale fra questi tre momenti, quello momento del risultato dell'Europa, il momento del congresso del 22-23, e poi il momento definitivo, quello del 31 in poi fino alla morte, 35, è questa. Nella prima della stesura della sua teoria, così come appare nel risultato dell'Europa, c'è ancora l'idea che la civiltà romana era avviata a un lento processo di decadenza, già dal terzo, quarto secolo soprattutto, quando a un certo momento, non in decadenza, non inclinato, non accentuato dall'invasione germanica, ma invece nettamente poi accentuato dal momento dell'invasione islamica, alla metà del secolo secolo. E quindi l'invasione islamica non fa altro che far precipitare un processo di decadenza, di crisi, delle istituzioni che sono già in atto. Come sapete, invece, nella teoria che viene formulata poi successivamente, nel 22-23, l'invasione islamica dà una svolta totale, l'inversione del 180 a cammino della storia, di civilizzazione islamica, una strada di questo mondo, attraverso le curve di Islam, il percorso, quindi Bisa partiva a prevedere che il corso della storia sarebbe andato in una nuova direzione, la storia continuava in suo antico corso da età romana in poi, non c'era una vera e propria decadenza quando l'invasione islamica ha cambiato completamente il corso della storia. E non è soltanto un cambiamento quantitativo, è un cambiamento positivo abbastanza importante. Tra la prima di questa reale sostanzialmente la crisi finale, quindi continuità fino all'invasione islamica, al momento dell'invasione islamica, poi nella formulazione del 22-23, però sulla formulazione, c'è una carica tutto speciale, accento e forte sulle aree civiltà, sull'incontro delle civiltà, sul spostamento di popoli. Il problema da cui si pone il tirano è il problema che domina tutto il momento della filosofia europea dopo la prima guerra mondiale, fortemente influenzata sicuramente dall'esperienza bellica, dallo scontro, intesa come scontro di civiltà differenti, determinata da questa affrontarsi di civiltà che è assentiva, come dice di Cattolica. Questo è il problema delle diverse nazioni che si scambiano. Tutta la tematica dell'epoca, ora posso soffermarmi in questo punto che non sarebbe da sé soltanto una trattazione, ma date è fondato questo tema. È importantissimo questo riguardo a Alfan, un congresso di Alfan, nel congresso di Bruxelles del 23, presenta una sua relazione dove anticipa la tesi di un noto volume, Le Barbare, fatto nelle collezioni delle edizioni di Rumanite alcuni anni dopo, dove enuncia la nota tesi che l'origine delle invasioni barbariche si risulta non dalla crisi che avveniva all'interno dell'impero romano, ma da un fatto esterno alle percezioni molto lontane dei movimenti avvenuti addirittura nell'estremo oriente, in Cina, ai confini del Pacifico, e per un mese successivo propagatici fino a determinare questa invasione, dove veniva teorizzato addirittura questo fenomeno storico di primaria importanza, che è quello che incide sui destini di lunghissima durata nella grande storia universale del posto del territorio occupato da un popolo con una determinata civiltà e un determinato momento. La collocazione di questo popolo tra altri popoli e dalle variazioni e dagli spostamenti che si rimangono qui e spostano. Questi sono i grandi fatti storici che contano dal punto di vista dei grandi avvenimenti, di quelli che fanno veramente epoca. Su questo tema, più o meno, presentò la storia qui del mondo antico, la stessa di tutto il mondo medievale, quasi non lo si anticipava il suo grande volume, la fonte del mondo antico, a parte la nostra collezione di Lucien di Marisa, Giorgio presentò una relazione sul quinto e sesto secolo nei Balcani, in Romania, in modo particolare, che per succedere due relazioni, una archeologica e una storica, una archeologica sull'influsso degli scisi nell'arte dei popoli germanici e l'altra l'anticipazione poi del grande, la crisi del quarto secolo dell'esercito romano, che perché l'anticipazione del grande volume sulla l'economia del basso impero e di ricerca. È il momento incontro. Ricordo che poco città materiale poi ha scritto capolavori suoi, una relazione politico-diplomatica, però condotta su base storica, Foreign Office, sulla sua missione situata nell'Asia Minore, a proposito della guerra turco-greca, dove racconta, per spiegare questi incontri di civiltà che era avvenuto su quel suolo, si rifà fino al primo incontro della storia avvenuto su quel suolo, tra due civiltà, la guerra di Troia, eccetera. Quindi c'è uno studio condotto su questa tematica, per esempio, l'incontro avviene quando. IBM affronta questo tema proprio in questo tipo di problematica, quindi l'invasione musulmana ha fatto in maniera che le aree utilizzate sono trasformate, che per la prima volta della storia il Mediterraneo invece di essere il centro di una sua utilità che si abbatte su questo mare diventa un lago periferico dove si incontra, si affronta ma non comunicano tre civiltà, quella bizantina, quella latina occidentale e quella araba che si è messa di mezzo e ha sbarrato la strada tra le altre due, mentre invece l'applicazione ai suoi due fatti, il termine operato, è stata discentrata e l'altro si è spostato dal Mediterraneo verso il nord, quindi è tutto un spostamento di aree civiltate a quelle conseguenze a catena che si sono state terminate. Mentre invece poi dal 1926, proprio in seguito a aperture di questo tipo sulla storia mediterranea, non più soltanto europea, diciamo dopo guerra, che la fondazione degli Stati Bizantini, che è un riferimento di studi islamici, che è un riferimento di studi slavi, il Pirelli importa uno storico russo, che finisce a dare una parte di storia della Russia dei paesi slavi in momento di già. In seguito di tutto questo si pongono in maniera diversa, i fondi non tornano più riguardo i problemi del terrorismo, perché anche perché quando il collegamento che andava bene per un'area ristretta al medioevo occidentale latino non va più bene per un'area molto più allargata, e allora si pone il problema di terrorizzare in maniera concordata nell'edizione di creare una storia economica, nel senso una storia ironica, nel senso di un accordo generale che eliminasse i contratti. Allora il comitè dei centri storici, d'accordo con il fondo della collaborazione intellettuale che si era creata delle scene di Kerr a Ginevra, per queste nazioni, che è la sede nello stesso centro della redazione della rivista Interista a Parigi a Forêt Royale, bandiscono una serie di studi di questo a fare una rivista proposta la stabilizzazione. Per lui viene presentato a Oslo, c'è una commissione internazionale che si dice a Venezia, c'è il presidente di Leif, che dibatte questo problema, questo evidentemente, e allora in questo ambiente le crisi del Pirelli assumono soprattutto, finalmente, ma solo adesso, il carattere di una teoria sul terrorismo. Ma ci sarà anche un carattere di accademico, c'è un grande scontro violento ma amichevole, che si è finito davanti due grandi boccali di birra con Alfons Dock a Oslo, e alla fine c'è una serie di polemiche, di questioni molto particolari, molto tecniche, nelle quali poi il Pirelli ha fatto il solo nella redazione finale del mondo e del mondo secondo me. Ora, per ritornare alla storia d'Europa, dopo averla collocata da questo punto di vista delle relazioni del pensiero di Pirelli, noi vediamo che fin dall'inizio si pone il problema che noi interessa. In cosa consiste la crisi del mondo antico, la crisi dell'impero romano? Perché, come già vi ho detto, nella storia d'Europa si rende ferma ancora l'idea che c'è stata crisi, che si rende nel campo intero, che sono immediatamente successivi alle invasioni germaniche, anche se crisi nella continuità sostanziale. Ora, la crisi è la crisi dello Stato. La crisi dello Stato consiste nella crisi economica, nella crisi monetaria. La crisi economica significa varie difficoltà dovute allo stesso tendersi dell'impero romano, dovuto alle pressioni dei barbari, alle necessità di affrontare tutto questo, eccetera, di crisi costituzionale, senso di al centro dell'intero questo, ma si concretizza essenzialmente in una crisi del commercio, quindi in crisi di operazione monetaria, una crisi economica, una crisi finanziaria, che viene meno il tesoro regge, e quindi lo Stato ha sempre meno possibilità di pagare una burocrazia e sempre meno possibilità di tenere finanziariamente in piedi un esercito con tutta quella che serve. Ed è una crisi anche delle città. La crisi delle città romane è determinata a sua volta anche questa dalla crisi del grande commercio internazionale, quindi indebolisce la classe dei mercanti, le quali sono un elemento costitutivo della città. Ora, per chi si rende città vuol dire commercio internazionale, circolazione monetaria. Nel senso che tutto questo determina il senso di borghesia mercantile, professionale, libera, e quel senso che costituisce la città, con cui la città non c'è. E quindi c'è una crisi delle città, la crisi delle città e anche la crisi dello Stato romano. Quindi si rende delle pagine molto belle, delle pagine che forse non avrebbe scritto nella medesima maniera, non ha scritto nella stessa maniera poi nell'ultimo volume, non c'è Carlo Magno, in quanto le città nello Stato romano sono elementi essenziali della costituzione stessa dello Stato romano. Le città non esistono avulse dall'intera struttura amministrativa, politica dell'intero, perché le città esistono anche come centri, come residenza dei grandi funzionari imperiali, esistono anche come articolazione del potere delle grandissime cariche che reggono le province e le diocesi, eccetera, eccetera. Quindi qui le tesi tironiane appaiono ancora in grado tenue, ma più tardi Tirone avrebbe detto che le città dipendono unicamente dal commercio a lunga distanza, unicamente dall'esistenza di una classe di mercanti. Qui invece le città esistono anche come nuclei dell'organizzazione politica. La gestione politica dello Stato romano è tipicamente un'organizzazione per città. Roma stessa è in origine una città, l'impero è una federazione di città. Ovviamente le città vengono molto a commercio internazionale, forniscono tributi in denaro, sono quelle che quindi reggono, impediscono che si formi un potere rurale che si sviluppi troppo, cioè il potere dei grandi proprietari fondiari, della classe minatoria, che si forma proprio sulla terra, come potere che si dà i rapporti personali tra grandi proprietari fondiari e coloro che si vivono sulla terra. Ora, queste condizioni vengono accentuate dalle invasioni germaniche. Non perché questo è il punto fondamentale, non perché si introduce degli elementi nuovi, ma perché questo accentua la posizione che per il momento si sta di questo, perché dopo non riconoscerà questo, accentua certi elementi di decadenza. I stati romano-germanici non entrano desiderio di convertire lo Stato pubblico, non portano nessuna novità sostanziale per il semplice fatto che i barbari sono barbari, per definizione, quindi non hanno nulla di proprio, di diverso, di valido da portare all'interno dell'impero romano i sistemi pacifici, i cittadini, i costruttori, gli elementi che usano l'impero romano. Quindi, per la Francia, perché sono della Francia più grossa competitiva, i romani, i germani non hanno germanizzato l'impero, lo hanno barbarizzato. Però, appunto, perché barbari, perché hanno barbarizzato l'impero, hanno provocato l'ulteriore decadenza della cultura, quindi delle scuole pubbliche, non servono ancora le scuole ecclesiastico, e allora quindi anche Giocadellista in preparazione crescente del senso burocratico, l'altro è l'unico in cui è ancora lo stato si attiva. E quindi in questo senso le invasioni germaniche accelerano questo processo di delegazione allo Stato, che viene per bene questo elemento, però lo Stato rimane ancora esso stesso, non ci sono novità qualitative importanti, che soltanto la rotazione delle strutture, l'allargamento delle maglie, l'indebolimento delle funzioni, non anche questo stesso. A un certo punto avviene l'invasione musulmana, si tagliano i rapporti tra l'Oriente e l'Occidente e cessa il commercio. Ora, su questo punto io vorrei dire due aspetti che sono molto interessanti. Per i studenti, il commercio, diciamo che molti commerci internazionali solamente è improprio, sono molto più improprio alle nostre orecchie, abituate al concetto moderno di nazione, di quando hanno fatto alle orecchie del diretto, che nazione, non dimentichiamo, non ha il senso di nazione, stato, politica, ma anche ha il senso di organismo popolare, corpo sociale, di struttura economica, sociale, morale abbastanza unitaria, forse per il mondo. Ebbene, quindi considera il commercio internazionale un commercio, come diremmo oggi, interlocale, che è quel commercio che non consiste nel rapporto di scambi tra la città e il suo naturale territorio, che produce per l'alimentazione della città, ma è un commercio che è al di fuori, imposto e esposto, con ambienti che sono al di fuori di questo ambito, città campana, città giocino di campana. Quindi l'interruzione del commercio internazionale provoca tutte le conseguenze che noi sappiamo, e quindi si instaura un negativo dello Stato. Gironi parla di membramento dello Stato. Poi vedremo e si riuscire di parlare di feudalizzazione dello Stato, soprattutto si riuscire di identificare lo smembramento dello Stato con la feudalizzazione dello Stato. Lo smembramento dello Stato che è una fine Stato antico, insomma, quindi inizio di un'epoca moderna, è terminato da questo fattore. L'interruzione del commercio internazionale significa l'interruzione dei traffici, significa la fine, questo poi la fine. Dei scelte di mercanti liberi professionali, la fine di quelle scelte di mercanti è la fine delle città. La fine delle città significa il venire meno di uno degli elementi modali della struttura dello Stato, da una parte. Dall'altra parte significa che di pari passo cresce spontaneo, da ribadito, il potere dei grandi capitali terrieri nella campagna. È l'elemento di legatore per eccellenza del potere statale. In quanto sia questo deriva sia dal basso, dalla crisi delle città, sia dall'alto, dalla crisi dello Stato. Quindi torniamo alle forze tra città e Stato. Vendo lì il commercio internazionale, vendo meno le città. Crolla le strutture potere centrale, non soltanto perché vengono meglio si annullano questi nodi delle giunture statali che sono dell'amministrazione, che sono le città, ma perché viene meno la possibilità di avere delle finanze pubbliche, le imposte pagate dal denaro che formano in natura. Si viene meno un tesoro regio, lo Stato non ha più moneta per pagare più funzionari e per pagare il mercato che sia tenuto allo Stato. Quindi non avendo lo Stato denaro per pagare i propri funzionari, si scendiamo dall'alto verso il basso, lo Stato deve remunerare questi, la monarchia deve remunerare questi funzionari con un'attribuzione di terre come stipendium. Quindi con l'assegnazione, con il legame tra un ufficio e il terra, la condizione di terra, il cultus che è collegata con l'ufficio e con l'esercizio della sua funzione, cultus capitalis e via dicendo. E quindi si crea questo potere da parte di privati, di quale derivano il potere non dallo Stato, ma da propri leggi finanziarie, o da quelli propri che hanno, in quanto sono grandi privati attivi, da quelli che da quelli che acquisiscono dallo Stato per compiere questa funzione. Ora, insieme di questi fatti mi trovo con la fine dello Stato. Ora, il Sirene indica questi due fenomeni come elementi determinanti nella crisi dello Stato, uno è la commendazione, con la questione della commendazione, che i privati, da una parte i privati si affidano ai potenti capitali terrieri, cioè ad averne protezione, cioè una protezione che lo Stato non può dare. D'altra parte l'immunità, cioè la concessione che lo Stato fa a un funzionario di esercitare certi poteri sulla propria terra, escludendo anche le questioni di altri funzionari di grado superiore, dall'ingresso, per effettuare questi poteri stessi, quindi la commendazione da una parte del museo dell'altra sono gli elementi che vivono lo Stato. Quindi in questo momento per il Sirene non si può più parlare di Stato. Quindi voi vedete che c'è una stessa connessione tra un'economia commerciale e industriale e la funzione di Stato. Quando parlo di economia industriale, manifatturiera, artigiana, se volete, secondo i tempi, si parla di anche qui di un'economia di produzione interregionale. Si rende un prende in considerazione quella produzione di manufatti che serve all'uso interno della città stessa oppure del territorio circostante, della campagna di prodotti servono per la città. Quindi questo non conta agli effetti del commercio interlocale, agli effetti dello sviluppo comunitario, conta della produzione artigianale che da una parte ha bisogno di materie prime che vengono dal di fuori di questo ambito ristretto della campagna, e dall'altra parte produce prodotti che questi devono essere venduti al di fuori di questo ambiente. Così un altro concetto da mettere in rilievo, il Sirene lo fa, si vede che si tiene, si è chiarito questo, che l'economia agraria che prende sempre più il posto dell'economia commerciale, industriale, interregionale, ripeto spagnolo, e l'economia che noi chiameremmo economia potente, che noi chiamerebbero economia domaniale, domaniale classica, il Sirene invece preferiva chiamare economia agraria san debito, cioè economia senza sbocchi, non economia chiusa, ma economia senza sbocchi, non chiusa perché non era chiusa proprio nel senso proprio, ma senza sbocchi per sottolineare che questa novità nell'economia agraria non veniva dall'interno del mondo rurale, della società rurale, ma veniva dal di fuori, era una conseguenza di un impatto. Quello che è sbocchi è un'economia che si chiude di tanto in quanto il venir meno delle possibilità di commerciare con l'ambiente esterno elimina le possibilità di sbocco dei prodotti dell'economia agraria. Quindi è un'economia che come conseguenza, non programmaticamente per un'evoluzione propria interna, deve produrre soltanto per i capitali interni. Quindi l'economia che è la negazione dell'economia capitalistica, un'economia che tende soltanto a soddisfare i bisogni esistenti nella per le persone che esistono nella misura in cui esistono. Senza nessuno spinto capitalistico, quindi senza nessuna preoccupazione di accumulare, però si di accrescere risorse, per questa via di aumentare le stesse qualità terriere. Quindi è l'economia che diventa ferma. Diventa ferma per questa crisi di ferma. In tutta la condizione del Sirene l'unico rami dell'economia che producono fatti nuovi sono il commercio. L'economia agraria non si dice mai fatti nuovi, vive sempre di banche, di contrapporti, che lei vengono anche i tipi di economia. Anzi, direi tra il commercio e l'industria, è il commercio quello che va alla via, perché l'industria di per sé non è quella che crea una cosa, l'industria venga all'esterno in quanto poi può commerciare con l'esterno, altrimenti produce tanto molti per il commercio interno. Ora, in questa situazione c'è un altro elemento che si viene a creare ed è questo, ed è la crisi di un personale specializzato per la burocrazia, un personale che abbia una formazione culturale, la crisi della scuola è lentamente continuata, tutto il potere di corruzione, tutte le corruzioni vengono dopo l'invasione musulmana, con la crisi delle città, perché le scuole si creano nelle città, perché non abbiamo più un personale laico preparato per esercitare le funzioni della pubblica amministrazione, perché tutti i sistemi del ministero dell'amministrazione romana che è arrivato avanti senza scomparire, seppure con la lente talento, fino a certo punto, compare il registro delle imposte, compare la regolare tassazione delle imposte, quindi sono tassazioni di natura, quindi i servizi, imposte indirette, in modo effettivamente la tassazione dei servizi, perché si vuole, ma non c'è quel sistema delle imposte romane che presuppone un centro di funzionari che sanno scrivere, che sanno tenere i registri in ordine. Non c'è un potere centrale capace di organizzare questa cosa. Conseguentemente viene meno il potere regge, la monarchia e la forza che possiede più terra rispetto alle altre, rispetto agli altri signori, ma non possiede più terra. E quindi non può organizzare le forze della burocrazia. Questa è la crisi dello Stato come è delineata in tutti gli aspetti. E quindi egli dice. Membramento dello Stato, non feudalizzazione. Il Tirreno intende, questo è un fatto molto interessante, che forse fa di più vivi e più attuali, è un libro eccezionalmente chiarificatore della storia, anche nelle parti di quantità, e veramente illuminante. Si dice che il Tirreno in fondo rappresenta soltanto un aspetto di questo mondo, di questa situazione. Tutto quel coordinamento giuridico che attiene al beneficio e al vantaggio. Questo è tutto l'unione di questi benefici e vantaggio. Quindi, in fondo, il diritto feudale è un diritto speciale, così come il diritto speciale è quel jus mercatorum, quel diritto che si viene a creare per i mercanti, che questo particolare attività. Perché dal diritto comune di tutti, emerge un diritto particolare per i mercanti, un diritto particolare per i vassalli e gli altri che vanno nel diritto comune profondono piano piano lentamente in rapporti di dipendenza nell'ambito che sono terriere dei vassalli e praticamente perdono loro libertà. Poi il Tirreno, secondo l'ambito che sarebbe un ambito, quello di mano esterno, la teoria della teoria della giunta è pastori, perché la formazione di Gaia, richiede un mondo di termini, liberi sono soltanto i mercanti e poi i feudatari. Quindi non è un sistema feudale quello che ha provocato la crisi, né gli elementi di crisi sono tipicamente feudali, sono feudali anche se si vuole, è un elemento di ricostituzione attraverso il vincolo feudale e la maniera con cui nella nuova situazione la monarchia comincia a tentare e in gran parte riesce a ricostituire attorno a sé tutta una serie di legami che va in forza. Quindi un elemento feudale non è un elemento liberatore, ma è un elemento, come si chiama dire, di aggregazione. Dice che è dipeso dal fatto, che è molto giusto, cioè la filosofia ha fatto proprio le posizioni di quei mistici del tempo della rivoluzione francese e tutti i quali hanno chiamato feudale tutti quei stati giuristi delle situazioni che si opponevano alle nuove leggi che stavano in così della filosofia. Quindi convolvendo, per il successo, regalarsi la consiglieria. Poi, semmai è avvenuto questo fenomeno in cui due cose distinte, separate, che uno fa le cose da sé, che l'attribuzione di uffici a capitani terrieri sulla base di un possesso terriere si è confusa con il rapporto feudale. Semmai questa confusione è un elemento che ha cercato di fare da contrappeso, di controspinta al processo di giustizia. D'altra parte, anche il fenomeno della unione tra l'immunità, negativa prima, positiva dopo, e il diritto feudale è un fatto successivo, secondario, comunque non è anche questo un elemento di rilevazione, ma non è semmai di ricostruzione, di riaggregazione. Ora, questa è la situazione che Carlo Magno trova. Ora, la ricostruzione di Carlo Magno è una ricostruzione in fondo che non porta trasformazioni sostanziali e profonde, cioè il fatto nuovo della creazione della fedelità sulla base della guerra terminata, dalla guerra contro i musulmani che ha richiesto l'organizzazione di una cavalleria. In questo film il Tirone segue la tesi del Bruno, la famosa tesi che era quella legge che derivava dall'idea di contrapporre un'armata a cavallo contro la testa musulmana. Ora, ed è un elemento di forza questo naturalmente, che ha sempre supposto il fatto che a un certo momento, attraverso una abile politica personale, il successo militare di Poitiers, che è una conseguenza già di una forza artificiale, un forte potere fondato su una vasta proprietà fondiaria si viene a costituire nelle mani dei maestri di palazzo, i quali sono abilissimi, i quali fanno elargire molti benefici, molti feudi ai grandi proprietari terrieri, ai grandi cavalieri, attesi nel patrimonio regio, con le tali di fedeltà che sono nei propri riguardi. Quindi, a spese del re, il rinforzamento che deriva da questa operazione dà vantaggio non della monarchia ma del messi palazzo, quindi poi questi prendono il posto. Però questo è molto significativo perché prelude a una situazione che si verificherà dopo, che è stata studiata, viene studiata adesso, oggi, molto attentamente da Carl Ferdinand Werner, il quale si occupa molto delle principali questioni. Il Tirone ha insistito molto, ci torneremo tra poco, su questo aspetto della formazione all'interno di una monarchia indebolita, che feudale indebolita non perché feudale, indebolita e invigorita grazie a feudalesimo, e si formano questi principali. Il primo principato che si forma è proprio quello dei maestri palazzi, quale diventano re e quindi per un momento tirano su il potere della monarchia e poi questo invigorito in questa maniera si estende con le conquiste, poi arriva fino alla dignità imperiale, con la cosa col Papa, eccetera, eccetera. Ora, questi principati, sono fondate sul principio proprio della proprietà privata oppure del beneficio e sul possesso fondiario che comporta la possibilità di farsi una grossa clientela, comporta un contatto diretto con attraverso rapporti personali di diverso tipo, di diverso grado, con i servi, con i liberi, i dannatori, gente con meno potente, e comporta quindi una realtà, un'organizzazione vera e propria che sale dalla base. E questo ritiene non è un'organizzazione statale, perché è così da poteri eccentrici che corrodono il potere centrale per lui è statale, anche se è uno stato ormai in sentito disgregato, membrato, come dice. Questo avrà conseguenze notevoli in futuro. Ora, con la questione di Lucero noi abbiamo qualcosa di nuovo, che è importante sognare. La funzione della Chiesa, innanzitutto. La Chiesa per il Terenna ha una funzione fondamentale nel Medioevo. La Chiesa è quella che ha conservato il più possibile dell'unità dell'impero romano. Ed è potente per questo. E vedremo di seguito nella rinascita delle città, perché le città italiane sono particolarmente importanti, perché si hanno conservato più delle altre le unità romane, al contrario delle altre. E su questa base, quando le condizioni saranno favorevoli, potranno cominciare a investire la loro fortuna. Però la Chiesa ha conservato le strutture della romana, perché le proprie strutture della Chiesa le ha modellate proprio sulle strutture romane, a cominciare da quella fece del papato, per arrivare alle strutture di interi province, in diocesi, a funzione del vescovo, a funzione del vescovo, dei vari vescovi, del papato delle città, e via dicendo. Quindi il papato ha conservato questo elemento che non è stato messo in crisi sostanzialmente dalle versioni barbare che pure sono rimaste. Ma questa cosa di più, il papato, la Chiesa ha avuto una funzione supplente sul piano scolastico, ormai che la scuola romana decadeva, sorgeva quella vescovile e monastica. Qui si è formato un ceto che era pronto a sostituire quello laico, quello di Bambino. Quindi, nel passaggio dall'età merovingia all'età carolingia, c'è anche la funzione del ceto burocratico laico con quello ecclesiastico. Questo è un altro aspetto dello Stato che tramonta, perché una delle caratteristiche dello Stato che richiedono quello dell'istituzionale laico, e mentre invece in questo momento dell'istituzionale ecclesiastico. Il quale ha funzioni di cancelleria, di notariato alla corte imperiale, ha funzioni di dominici, ha funzioni di dominici in loco che viene attribuito al vescovo, ha funzioni locale quando man mano viene attribuito l'immunità prima negativa e poi positiva. Quindi questa è la situazione che si viene a creare con l'intera provincia. Con l'intera provincia c'è una creazione politica nuova ed è quella dell'impero romano in Occidente. Ora, l'impero per il Tirreno non è uno Stato. Cioè, un'osservazione molto interessante, e conserverà sempre questa idea della distinzione tra lo Stato e il senso proprio e l'impero. E dell'impero dà una definizione particolarmente interessante che mi pare giusto sottolineare. L'impero romano, quello di Carlo Magno, romano in quanto eredita la tradizione romana con la Chiesa, che non avendo origine laica, nulla essendo debitore agli uomini, non formerà per essere fatti uno Stato, ma si confonderà con la comunità dei fedeli, di cui esso sarà l'aggregazione temporale, diretta dall'autorità spirituale del Papa. Qui è una definizione che richiama moltissimo la Santa Romana Repubblica del Papa. È una definizione, forse la migliore definizione che io abbia incontrato, infatti non è già una così chiara. Quindi è la comunità dei fedeli in quanto tali, che è tutta una unità, per tutti gli aspetti della vita, è un'unità che ha una doppia direzione, cioè ha una circuito di tutti, una per il temporale e una per il spirituale, ma dove il reggimento politico e il reggimento ecclesiastico della propaganda non sono distinguibili. Quindi a questo non ha un'aspirazione, almeno idealmente universale, non ha in senso rigoroso il proprio territorio, non ha un'amministrazione distinta per la parte ecclesiastica e per la parte civile, il personale più o meno lo stesso, esplica le due visto che funzionano, che spesso le confonde l'una con l'altra, quindi per dire che questo non è affatto uno Stato. Gli Stati si formeranno all'interno di questo ambito contro queste due autorità supreme. Questo è un aspetto che non è molto noto. Ora, questa capacità di capire queste strutture civili e ecclesiastiche, io dovrei mettere in verità questo maestro, sul quale dovremo ritornare. Non so se posso parlare del Vanitismo a questo proposito, sarebbe forse un po' più parodici, forse l'educazione cattolica era molto, lui aveva, molto intenso da parte della madre, e proprio la formazione. Bisogna qua tutti che si vedrà in modo più particolare in un altro campo. Ora, la situazione è questa, l'istruzione dello Stato, lo Stato. Ora, avuta questa definizione dell'impero, deriva che la lotta per le investiture, la lotta tra papato e impero, non assume per il Tirreno la qualificazione ma di trattato stesso. Il Tirreno nega che almeno fino a un certo punto nelle idee si possa parlare di lotta tra Stato e Chiesa. La lotta che avviene tra Stato intero e sembra investire non è una lotta tra la Chiesa e qualcosa che è fuori la Chiesa, ma è una lotta all'interno di quella che si chiama la società cristiana. È un termine che anche oggi lotta la società cristiana. Il termine che ho preparato molto volentieri dal nostro amico Luigi Borgottini, il quale già aveva dicendo da Gabriele Braccio, che è una tipica concettualizzazione, diciamo, di parte cattolica, che vediamo integralista, che è giunta, e quindi di tutta questa sfumatura interessante nel Tirreno, il quale polizia a questo proposito contro gli stari tedeschi, quali hanno voluto vedere la nostra, tra l'altro, quarto del Vario Settimo, la nostra appunto dello Stato contro la Chiesa, anzi la nostra dello Stato per la laicità contro un regime ecclesiastico, un regime che diventava quello più papalino, più vitale, cioè, quindi gli imperatori come i campioni del laicismo. Questa contrapposizione è affermata invece nettamente dal Volpe nei Lombardi romani come una delle tante manifestazioni di una differenziazione progressiva che la società in tutti gli aspetti, a tutti i livelli, eccetera, assume questo mille come una grande novità in piena campagna città tra classi, tra diritti, rami, eccetera, come segno. Intendendo il processo di distinzione, di differenziazione da una parte e di aggregazione di elementi omogenei nelle parti contrapposte come il segno di un elemento vitale, senso biologico, in un prossimo punto si ripensa anche questo film di Paranza Mattina. Ora, questo quindi c'è novità, che quale che le la novità viene da un altro punto, novità viene dalla città. Viene dalla città perché c'è la fondazione, non di fondazione, la fondazione delle città dell'Alto Medioevo, in cui di questo mettono tutti gli stessi argomenti, quindi non bisogna più li fermi, la ripresa del commercio internazionale, interlocale, attraverso i mercanti, gli erafinei, i costruttori, eccetera, eccetera, si crea la parte locale professionale, questo crea le città. E quindi abbiamo di tutti quella fenomenologia che ha determinato lo Stato nell'età antica e che era entrato in crisi, mettendo in crisi lo Stato. Quindi lo sviluppo del commercio internazionale per i mercanti, che erano le città. Lo sviluppo del commercio internazionale crea un'economia monetaria, l'economia monetaria porta allo sviluppo della monarchia, il quale a questo punto può raggiungere, può formare le disponibilità monetarie, riconvertendo i canoni e le imposte da natura in denaro, si può pagare per la crisi nazionale, può cominciare a utilizzare i funzionari, i mezzi delle teste, i compagni della Vietta, il nostro collega, tutti i processi e l'organizzazione. Quindi il processo è proprio questo. Quindi si assiste alla ricostituzione degli Stati nazionali. Perché qui ci fermeremo un poco. Ora, il meccanismo è semplicissimo, una volta inventato una idea che funziona sempre molto bene. Ora, quindi, su questo punto non c'è nulla di interessante da osservare, se non da vedere in concreto come questa realizzazione avvenga, e in maniera diversa secondo gli altri stati, quelle che vengono prese in una direzione particolare dalla Pirelli sono l'Inghilterra, innanzitutto la Francia e le Fiandre, o poi dopo a porto le Fiandre in caso di Borgogna. Ora, questi sono stati che si formano appunto in questa maniera, infatti il monarca si afferma grazie all'appoggio della borghesia in Francia, che la monarchia che si appoggia alla borghesia contro la feudalità, e quindi c'è un processo di affermazione della monarchia, tutto questo favorito dalle guerre, dai vari regni, dal pericolo comune, delle intese, eccetera. In Inghilterra invece il processo è diverso, abbiamo una monarchia molto molto forte, fin dall'inizio, e allora non c'è l'alleanza della monarchia con la borghesia, con la verità, c'è l'alleanza della borghesia con la verità, con la monarchia. Però a questo punto, dicono, nelle Fiandre il sviluppo è simile al regno francese, nella contea delle Fiandre, c'è l'alleanza del principe con la borghesia delle città, con la verità. Però a questo punto, facciamo un passo indietro, che è la parte più originale, l'elemento nuovo, perché questo processo di ricostruzione dello Stato che ora vi ho descritto è ovvio, abbiamo visto il processo di svuotamento dello Stato, e il processo che non vive. Però c'è una parte originale, è questo molto secondo, perché proprio potrebbe essere oggetto di uno studio, di un rinnovato studio su un tema che ormai questi diventano maturi, io ne parlo con le persone più diverse, essendo in tutti lo stesso interesse, ed è quello delle crisi. Naturalmente per quell'epoca la filosofia parlava di principati francesi da una parte e dei principati danificati tedeschi. Io sono qui abbastanza poco d'Italia perché nessuno ha mai parlato, ma avrebbe dovuto parlare benissimo dei principati anche in Italia. I principotei in Italia si chiamavano le marche, il problema delle grandi marche che si costruiscono a metà del prossimo secolo, che hanno un'importanza molto più importante, molto maggiore di quanto non si crede, quindi anche l'Italia ha avuto i suoi principi territoriali, anche se la struttura interna delle marche si trasforma attraverso un processo di svegliamento, che la formazione delle marche in marche sante, cioè la marca può essere un territorio compatto in dominio e diventa un titolo marchionale che si applica sui singoli castelli che il marchese possiede, castelli che non costruiscono un territorio compatto ma sono dispersi qua di là. Insomma, c'è il potere marchionale di Italia, una sua storia, una sua importanza. Ma in Firenze il problema della transizione territoriale, che cos'era la transizione territoriale? E quindi qui hanno risultati nazionali. Poi dopo, in mezzo alle chiese, che delle cose vengono. Il principato, appunto, il grande signore terriere, che ha una contea o più contee, che può cambiare, può essere conto, ma che dice, eccetera. E lui si contrappone. Il re di speciale cosa già? Già, ecco, in Francia, c'è il mito, le parti, il mito la contrattazione regge, eccetera, che rimane. Funziona poco, per molti secoli, poi a un certo punto torna la buona anche quello, nel decennio, soprattutto alla fine del decennio, per il non è stato. Il re è eletto. Il suo territoriale è un vassallo, un pesatano, e quindi va avanti per questa questione di linea unica, secondo il diritto sacro. Quindi è un principe personale, con diritto ereditario, non c'è spartizione del territorio, del principato, come sono state per la monarchia, per sacrosanto, non c'è lezione. Il principe ha un contatto diretto con la base, è quello che veramente sente il potere di protezione, della funzione principale, è quello che dà a terra, il livello, da terra il materizio, da terra la mezzatria, eccetera, è veramente colui che cerca effettivamente un potere. E allora, i futuri re, chi sono? Invece danno origine di stati nazionali, sono due principi territoriali. Uno è esercitante, che è il monarca, però ha anche il suo proprio principato territoriale che è l'indicante. E l'altro è un altro principio territoriale, è il duca di Normandia, che direbbe il duca di Normandia. Quindi il potere si costruisce dal basso, quanto l'unione del principale territoriale che è il titolo monarchico che comincia a funzionare. Ora, il duca di Normandia è particolarmente fortunato perché già, sappiamo di diversi studi, già all'interno della Normandia lo sviluppo pedale da parte del confine più diverso, il possiede il duca di Normandia nei riguardi dei suoi vassalli era stato molto più forte. Comunque, diventando re, non perché si trova ad essere re come il principe italiano, che il re di Trani, si trova a essere re e continua secondo la scala personale. Invece il duca di Normandia ha la fortuna di diventare re e il duca di conquista, la battaglia di Assisi nel 1086. Allora lui imposta